Incominciamo. Innanzitutto un grazie a tutti i convenuti e ai partecipanti al tour di supporto legale che hanno proposto di far tappa a Milano presso il COX 18. E come cerimoniere posso astenermi dal dire la mia, dall'entrare nel merito delle tante questioni, peraltro quello che penso è sufficientemente noto perché non debba ripeterlo un'ennesima volta. E farò invece da conduttore dell'incontro, illustrerò brevemente il suo svolgimento e introdurrò i contributi registrati che a un certo punto verranno mandati. Per prima cosa voglio dire che questo incontro è dedicato a Piero Coppo, un compagno, amico che proveniva dalla corrente ultraradicale e che poi ha sviluppato una grande attività di ricerca e intervento nel campo dell'etnopsichiatria e che, ahimè, è scomparso all'incirca un mese fa. Oltre che per un debito di riconoscenza nei suoi confronti, abbiamo pensato di dedicare l'incontro odierno a Coppo per due motivi. Il primo riguarda proprio la sua attività di ricerca, che è stata incentrata su un'idea di integrazione tra gli apporti delle diverse culture del mondo sul piano delle tecniche del corpo, dei saperi della salute, rompendo in maniera molto decisa e pratica, soprattutto pratica, col paradigma eurocentrico, con lo sguardo dall'alto con cui l'Occidente osserva le vite degli uomini della Terra. E quindi in questa attività di ricerca ha posto al centro del suo fare proprio quella prospettiva globale che stava nelle teste di molti dei partecipanti alle giornate di Genova. La vera globalizzazione è questa possibilità di integrazione a livello planetario in un comune movimento. E Coppo ha sviluppato in maniera molto originale quest'idea, misurandosi proprio con la concretezza della malattia e cercando di affrontarla facendosi forte dei tanti apporti che potevano provenire da un altrove che non era mai un altrove esotico, ma era un incontro con uomini e donne in carne e ossa, con i loro saperi, con le loro capacità di affrontare le difficoltà della vita. Il secondo motivo per cui abbiamo pensato di dedicare questo incontro a lui è che Coppo ha posto c'era un altro centro della sua attività, e cioè la critica e l'affrontamento della psicopatologia del non vissuto quotidiano. Quindi un andare ai ferri corti con l'alienazione, con l'immiserimento che l'attuale sistema sociale impone alle vite di tutti, nella prospettiva della vera guerra, della disalienazione a tutto campo, prospettiva che per lui, come era stato per Cesarano, andava però insieme all'affrontamento col nemico, al combattimento. E anche quest'altra idea è un bel pezzo di quanto è avvenuto a Genova e di quanto è poi continuato. Ecco, allora, per quanto riguarda l'ordine dei lavori di oggi, ci sarà dapprima una presentazione e discussione del numero di Zapruder, di questa importante rivista di storia sociale dal basso e dal punto di vista dei movimenti, dedicato a Genova 20 anni dopo. È un numero importante, proficuamente discutibile, nel senso che offre molti spunti per la discussione, essendo tanti temi e numerosi i punti di vista che sono messi in gioco. Ahimè, temo che abbiamo perso dei torinesi per una, per un disguido tecnico. Torinesi che hanno scritto uno dei contributi, secondo me, più significativi in questo numero, e che speriamo arrivino, ma non ne siamo, ahimè, certi. Quindi buona parte del carico mi sa che starà sulle spalle di Blicher. Io magari cercherò di interloquire con lui, e ci sarà in compenso più spazio per una discussione, per domande e quant'altro. Dopo le parole dedicate a Zapruder, ci sarà una sorta di aggiornamento sulle più recenti rogne giudiziali penali. Quindi una registrazione di Vince e un intervento collaterale di Mattia, una registrazione di Persichetti su ciò che gli è accaduto applicandosi come ricercatore storico alla storia delle BR e alla storia del rapimento Moro, una corrispondenza di Oreste sulla questione dei rifugiati italiani in Francia, e infine un aggiornamento fatto da Stefania sulle richieste di sorveglianza speciale che andranno in discussione tra due giorni e che colpiscono i compagni di Bologna. Ecco, abbiamo voluto inserire nel programma odierno questi aggiornamenti perché 20 anni dopo questo è uno dei due lati della questione che continua a procedere. C'è il nostro, con le nostre capacità e incapacità, e c'è però anche l'altro, il lato dello Stato, che nella vicenda di Genova ha trovato una serie di motivi forti per ridefinire le sue pratiche e portarle fino al presente. E dopo questa prima parte, intorno alle 5, ci sarà la presentazione della nuova edizione del fumetto Nessun Rimorso. E ci saranno Zero Calcare e Maroz che stanno arrivando, e dopodiché verso le 7, magari spostandosi fuori per evitare problemi di assembramento, ci sarà il tanto atteso firma copie del libro e delle serigrafie che sono state portate. Tutti i soldini che usciranno dai portafogli andranno nelle casse di supporto legale per sostenere un'attività che poi Blicero nel suo intervento dettaglierà meglio. Ecco, io fortunatamente non devo dire nient'altro, passo la parola a Blicero. Allora, grazie a tutti e a tutte per essere venuti, nonostante il caldo, e immagino che tanti volevano essere magari da qualche altra parte in questo pomeriggio, ma per noi è molto importante questo tour che stiamo facendo in occasione del ventennale, ma un po' anche per tirare le fila di 20 anni di lavoro. Supporto legale, per chi non lo sapesse, è un collettivo che si forma a partire sostanzialmente da un gruppo di lavoro del FU, collettivo / rete di Indie Media Italia. Si forma proprio a seguito delle necessità che vengono espresse dagli avvocati e dalla segreteria legale di Genova di elaborare una grande quantità di materiale documentale che sta entrando nei processi, e in particolare nel processo che prende inizio nel 2003 contro 26 manifestanti, che poi diventano 25, per devastazione e saccheggio. Il processo contro i manifestanti per vessazione e saccheggio è il filone principale che vedrà imputati compagni e compagne, a cui poi si affiancheranno altri filoni. Tutto l'impianto accusatorio è basato su un database di documenti, video, audio, foto molto molto corposo, in parte proveniente anche da alcuni sequestri che vengono effettuati in cosiddette sedi di Indymedia all'interno di alcuni centri sociali in Italia proprio nel 2002. Allora, a seguito di tutta questa situazione, gli avvocati e la segreteria legale chiedono una mano a elaborare tutto questo materiale, e un gruppo di persone della rete di Indymedia si mette a disposizione per dare una mano. Questo vuol dire che praticamente questo gruppo di persone si trasferisce a Genova negli uffici della segreteria legale e inizia praticamente a vivere all'interno di questi uffici per vedere centinaia di ore di video, decine di migliaia di documenti, foto e testuali, metterli insieme, collocarli, metterli in relazione tra loro e dare una mano agli avvocati e alla segreteria insieme costruire una strategia difensiva che per noi aveva come asse fondamentale quella di difendere tutti e tutte, cioè senza alcuna distinzione, cioè non avremmo dato la nostra disponibilità a lavorare ovviamente se le difese si trasformavano in difese che mettevano un pezzo contro un altro. Ciò ovviamente non voleva dire che si riuscisse a far assolvere tutti, però che il lavoro non poteva, come dire, per avvantaggiare qualcuno, ledere qualcun altro, perché questo sarebbe stato un principio desolidarizzante, inaccettabile dal nostro punto di vista. Questa è un po' la prima fase di supporto legale che si svolge in collaborazione con la segreteria legale e gli avvocati e che dura più o meno fino alla sentenza di primo grado. Sentenza di primo grado che, come tutti sappiamo, si conclude con in parte un successo delle difese, perché 15 dei 25 imputati vengono assolti, perché durante le udienze, grazie anche al lavoro della segreteria, viene dimostrato che le cariche che avevano subito una parte delle manifestazioni che si svolgono il 20 luglio è dovuta a un atto arbitrario delle forze dell'ordine, e che quindi la reazione sostanzialmente a quella carica è un atto, diciamo così, di giustificata difesa o in quarta di comprensibile autodifesa, e quindi in quanto tale quelle persone vengono assolte dal reato di devastazione e saccheggio. Purtroppo sarei disonesto intellettualmente se dicessi che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, perché il nostro obiettivo era far assolvere tutti e questa cosa purtroppo per noi non è avvenuta. Una seconda fase del progetto supporto legale si snoda, diciamo così, dopo il 2007 e fino diciamo così al 2012, con un'azione di comunicazione e informazione su quello che succedeva nei processi, negli appelli successivi e in tutto quello che concerneva. Abbiamo poi dato una mano, con l'esperienza che ci siamo fatti, anche ad altri processi per quanto riguarda Milano, processi abbastanza noti come per esempio quello relativo all'11 marzo, piuttosto che il processo a Sud Ribelle insomma altri processi in cui ci è stato chiesto di fornire un po' il supporto che eravamo stati capaci di dare anche nei casi di Genova. Dopo, diciamo così, il 2012 si apre una terza fase, anche più intensa, se vogliamo, più umanamente, sicuramente molto più intensa, che è stata quella poi di dare un sostegno economico, politico e comunicativo alle persone che vengono tratte in arresto e detenute successivamente alla sentenza definitiva, che arriva nel 2012. Queste persone vengono condannate complessivamente a circa 100 anni di carcere, e quindi insomma il lavoro per sostenerle è un lavoro piuttosto forte, piuttosto impegnativo. All'interno di tutto questo percorso organizziamo eventi, produciamo materiale, teniamo i contatti con gli arrestati e le arrestate, cerchiamo di sostenerli nel miglior modo possibile, e un po' questa è la storia di quello che abbiamo fatto in questi 20 anni. Arriviamo, diciamo, a questi 20 anni con il portato di queste esperienze. Chi ha cercato in tutti questi 20 anni di tenere il punto su alcune questioni fondamentali, con ben chiaro da quale parte si dovesse stare, diciamo con un intento di partigianeria molto esplicito e definito, e cercando di non far mancare il nostro supporto per farsi carico un po' di un pezzo di storia che noi abbiamo ritenuto sempre essere un pezzo di storia di tutti noi, e che quindi non poteva diventare il pezzo di storia solo di chi rimane incastrato negli ingranaggi della repressione. Se a Genova eravamo 300.000 persone che esprimevano in modi estremamente variegati la propria alterità rispetto a un sistema e la propria volontà di conflitto, modi molto diversi tra loro, però tutti legittimi, non so come dire, allora era giusto che anche le conseguenze di quell'evento, di quelle giornate, diventassero patrimonio collettivo, di solidarietà, di azione politica. E per noi aver fatto supporto legale in questi 20 anni ha voluto dire farsi carico di quel pezzo lì, non lasciare nessuno da solo e indietro all'interno di questi 20 lunghi anni. Questo più o meno è il percorso che stiamo facendo. Magari sul tour che stiamo facendo ne parlo dopo, quando presentiamo il fumetto. Vengo un po' alla presentazione di Zapruder, che è un po' l'argomento di oggi. All'interno di questa, diciamo, per noi arrivare a questi 20 anni, siamo un pochettino allergici al reducismo, cioè a quegli incontri in cui si parla di quello che si è fatto, quello che non si è fatto, quando io ero a Genova, cosa è successo, cosa non è successo. E pensiamo che, come dire, affrontare gli anniversari serva se alimenta una memoria collettiva che non è fatta solo dai reduci, ma è fatta di processi politici, di percorsi. Allora, in questo senso noi abbiamo cercato in prima istanza di recuperare tutta una serie di materiali che erano stati perduti nel tempo. Quindi, per esempio, abbiamo recuperato il sito processig8.net, che era il sito della segreteria legale dove c'erano tutte le udienze, che era andato offline. Abbiamo recuperato il nostro vecchio sito di supporto, che nel frattempo, nei vari passaggi in 20 anni, era andato perduto, con un'altra serie di materiali originali. Abbiamo recuperato il sito di Indimedia Italia, che era, in seguito alla sua chiusura, era andato disperso, e abbiamo fatto ogni sforzo possibile per rimetterlo online in una versione che fosse quantomeno consultabile, in modo che ci sia un archivio storico di una serie di cose che sono accadute, perché sono pezzi di storia che altrimenti sarebbero andati perduti. All'interno di questo grosso sforzo che abbiamo fatto, il sito di 10%, che è questa campagna che abbiamo fatto proprio in corrispondenza delle sentenze definitive insieme a Radio Onda Rossa e a tantissime altre realtà. Abbiamo poi proposto a Zapruder, che è questa è un collettivo, direi collettivo, di storici e storiche militanti. Quindi, come dire, che nasce proprio dopo Genova, poco dopo Genova, e si propone di raccontare la storia dei movimenti e di tutto quello che avviene intorno ai movimenti dal basso, con un approccio scientifico ma corale, e che a noi è sempre sembrato un approccio molto interessante. Al di là poi delle singole posizioni o della singola, come dire, opinione su un singolo caso o all'interno di un singolo numero, perché quello che abbiamo sempre pensato è che se il procedimento, se il metodo con cui viene affrontato un certo argomento, un certo lavoro è corretto, il risultato sarà interessante. Poi non è necessario, come dire, che io sia d'accordo con tutto quello che emerge. Quindi noi ci siamo presentati all'assemblea di Zapruder e abbiamo proposto di fare un numero su Genova. Loro all'inizio non avevano pensato di attraversare il ventennale con un numero su Genova, perché erano un po' allergici a questa cosa, diciamo così, degli anniversari, comprensibilmente peraltro, però la proposta che gli abbiamo fatto gli è risultata interessante, quindi insieme abbiamo costruito questo numero, raccogliendo una serie di contributi molto diversi e molto interessanti, che propongono delle analisi discutibili, come ha detto prima Roberto, però che quantomeno alimentano una discussione che forse in parte è mancata in tutti questi 20 anni, su tutta una serie di aspetti che riguardano Genova, dall'uso delle immagini per raccontare le mobilitazioni e le conseguenze che l'uso delle immagini può avere, positive e negative, a la presa di parola delle persone che vivono le mobilitazioni, fino ad arrivare appunto al contributo che abbiamo dato noi con un'intervista iniziale rispetto appunto alla nostra storia, quello che significa, come dire, portare avanti un progetto come il nostro per 20 anni. Altri contenuti interessanti, come ricordava lui, c'è il contenuto dell'archivio 14 dicembre dei movimenti sociali, che è un contributo molto politico, di lettura, diciamo così, di come si collegano i movimenti attualmente in corso, le realtà di movimento attualmente anche magari un po' più note, con quello che è successo a Genova, cioè qual è il lascito tra virgolette politico dei processi che si sono avviati a Genova, e che cerca di dare anche una risposta alla domanda, come dire, Genova è stata un po' l'inizio o è stata la fine di un percorso, o è stato in mezzo, cioè sono stati semi quelli che sono stati lasciati a Genova, oppure è stata un po' la chiosa di un'altra serie di cose che sono successe precedentemente. Oltre a questo c'è un articolo che io penso sia molto interessante, che è quello relativo a un compagno tedesco che cerca di dare un'analisi dei movimenti successivamente a Genova, dicendo cosa è successo ai movimenti dopo Genova, perché tutta quella potenza, quella forza che si è espressa anche a Genova, perché comunque si è espressa una grossa forza a Genova, in parte ha continuato ad alimentare percorsi politici negli anni successivi, ma poi a un certo punto si è esaurita. Ovviamente questo compagno dà una lettura basandosi sui movimenti tedeschi post Genova, però quella lettura che lui dà rispetto ai movimenti tedeschi secondo me è abbastanza attuale anche per quanto riguarda i movimenti invece in terra italiana, diciamo. In generale il processo è interessante perché ovviamente mette in luce le contraddizioni che sono emerse successivamente a Genova. L'ultimo contributo che noi abbiamo voluto dare al numero, che penso che sia molto interessante, che mi offre un po' anche l'occasione per poi passare la parola a qualcun altro, che sennò poi parlo troppo. Noi abbiamo un po' messo in contatto Zapruder, abbiamo sollecitato alcune delle arrestate e delle arrestate del G8 a mandare un loro contributo per la rivista, perché una delle cose che pensiamo è che in questi anni di commemorazioni, di anniversari e a maggior ragione in questo ventennale sia proprio la loro voce quella che manca, nel senso che il baraccone per esempio di Genova, come lo chiamiamo noi, cioè quella grossa organizzazione di eventi che è stata pensata per il ventennale di Genova, è pieno di persone che all'epoca stavano su un palco e che ancora oggi vogliono stare su un palco. E invece quello che manca spesso è il racconto di chi sul palco non ci voleva stare, voleva stare in strada, voleva praticare la propria, come dire, forma di conflitto nelle strade, e che ne ha pagato le conseguenze e che rimane poi poco considerato, come dire, nell'espressione di parola. Noi pensavamo che fosse giusto che anche loro avessero il loro, che tutti avessero la possibilità di esprimere un loro pezzo di percorso, perché pensiamo che le loro esperienze e le loro parole siano significative. E quindi sono molto contento che ci siano queste tre lettere all'interno di Zapruder, perché penso che siano molto significative anche dal punto di vista dei contenuti che esprimono, e penso che questo sia stato un nostro contributo importante, perché adesso qui chiudo, voglio ricordare che al momento la situazione degli arrestati è la seguente: abbiamo ancora una persona che è in affido, Jimmy, abbiamo ancora una persona che è, era latitante, al momento è in attesa di estradizione, di cui parlano dopo altri compagni, che è Vince, e abbiamo una persona che è proprio recentemente ritornata in carcere, era in affido in una comunità e gli è stato tolto l'affido, è stata riportata in carcere, dovrà scontare ancora un anno e rotto di carcere. Quindi insomma 20 anni sono tanti, sembrano un tempo infinito in cui tutto il mondo potrebbe essere cambiato, ma la verità è che per alcuni le conseguenze di quello che è accaduto 20 anni fa sono ancora molto presenti e molto reali, molto concrete. e di questo forse quando si narra e si ragiona su quello che ha significato Genova bisognerebbe un po' ricordarsi, insomma. Quindi io concluderei qui, poi non so se ho dimenticato di toccare dei pezzi. No, Roberto, no, bacchettata. Nessuna bacchettata. Mi pare che si possa riassumere così questo numero. Tre campi tematici sostanzialmente, pezzi di tre tipi diversi. Il primo è un campo che rimanda direttamente al nome della rivista, Zapruder, quindi il nome di quel cineoperatore dilettante al quale si devono le poche immagini esistenti sull'assassinio di Kennedy. E quindi un interesse costante alla questione dell'immagine, del suo uso nella storia, alla questione della rappresentazione degli eventi storici. Quindi qualcosa che proprio è di Zapruder, che viene articolato sulla vicenda Genova. Un secondo campo di interventi in cui invece viene collocata Genova nella storia dei movimenti, prima e dopo. Quindi il pezzo dei torinesi sul nesso tra Genova e le lotte in Valsusa, sostanzialmente, e come la questione delle diverse articolazioni della modalità della presenza e della lotta è stata affrontata in valle. Il secondo pezzo, appunto quello già citato, sulle ricadute in Germania della vicenda Genova, e infine un terzo che invece la prende da prima, dalla Pantera a Genova. Quindi tre contributi in cui Genova si cerca di storicizzarla, ma non lungo una linea indeterminata del tempo, ma lungo il filo delle lotte. Questo è un po' l'intento. E infine i pezzi che sono sostanzialmente un vostro contributo, che riportano il vostro lavoro e permettono di prendere parola, come dicevi tu, ad alcuni dei compagni e delle compagne che Genova l'hanno pagata cara. Ecco, a questo riguardo il contributo di Vince, che verrà mandato più tardi, continua in qualche maniera questo filo del discorso, perché non è un intervento sulle sue traversie giudiziarie in Francia, ma è proprio la sua voce su Genova. Quindi è come se fosse un'addenda al numero di Zapruder. Cosa facciamo? Marina, magari? Ecco, se Marina vuole venire a dove dire sei? La sua... Sei nascosta. Sì, sì, sì. Vieni, vieni. No, ma io mi alzo. Dai. Ma dai, no, non ci lasciate così soli. Noi siamo quelli delle strade, no? Questo è un pacchetto, no? Prendi un... No, vabbè, ma ci sono le sedie, ce n'è una anche lì. Andiamo, spostiamo l'ombra e siamo tutti sul palco, eh. Condividiamo questo palco. O togliamo il palco. Sì, quindi io dovrei parlare del mio intervento su Zapruder, oppure no, vabbè. Il mio punto di vista su Zapruder, o sul supporto legale e su tutta la vicenda. Allora, vabbè, intanto sono contenta di essere qui e in realtà sono contenta di quello che hanno realizzato i compagni del supporto legale, oltre che essere contenta di avermi seguiti per ben 11 anni. No, anche dopo, no, di più. Beh, ancora adesso ci stiamo seguendo, anche perché c'è ancora Vince in quelle condizioni. E vabbè, con un sostegno reale, un sostegno oltre che appunto legale anche politico, no? E nel corso degli anni i rapporti, oltretutto prima non c'erano dei grandi rapporti, sono nati poi in seguito, fino a, come dire, a diventare molto forti, dei legami ormai di politici e di fratellanza. Vabbè, io ho finito di scontare la pena l'anno scorso, ora sono libera e la proposta che mi è stata fatta un po' di mesi fa da supporto legale mi ha permesso anche di prendere parole. In realtà è proprio quello, di prendere parola, perché effettivamente noi che abbiamo pagato eravamo quelli che non erano abituati a parlare in pubblico, a parlare in mass media, a salire sui palchi, a esprimere le proprie teorie. Non che non ne abbiamo, però probabilmente, non so, se è una questione di autostima o di umiltà. In ogni caso, sono poche le volte che mi è capitato di essere dietro il tavolo, no? E avere davanti un sacco di persone che oltretutto un po' mi emozionano, no? Non sono abituata e quindi ho anche difficoltà, magari mi impappinerò, non fate domande difficili perché magari poi è un casino, però al tempo stesso mi fa piacere perché finalmente sono diventata grande, quasi vecchia, sono grigia. E posso dire la mia, perché effettivamente, anche prima, però soprattutto in questi 20 anni, sono emerse le posizioni di tutti, tranne che di noi, no? Che eravamo, cioè, fondamentalmente eravamo degli sfigati che oggettivati e messi da un lato sulle prime pagine, dall'altro oggetto di dibattiti politici, più o meno politici, per cui ho la causa di tutti i mali, no? Ma non tanto il capro espiatorio, perché non è vero, cioè non è vero, è rilevante se fossimo, cioè non è importante, ma più che altro oggetto di dibattito, o comunque, come si può dire, un modo per tutelarsi da parte di alcuni, per tutelarsi su ciò che effettivamente è accaduto a Genova. Delegare le responsabilità a un gruppetto di persone che peraltro non sono molto conosciute, che sono un po' degli scavezzacolli, che no, perché poi torno, faccio un passo indietro. Tra di noi non c'erano solo compagni, cioè tra gli arrestati e quindi a Genova non c'erano solo militanti, ma c'erano anche persone che probabilmente non avevano fatto neanche un minuto di militanza. Anzi, tra gli arrestati ci fu un genovese abbastanza su di età all'epoca, che oltretutto era forse anche fascista, no? No, comunque non aveva, era un balordo, era uno che andava avanti e indietro, era un balordo di strada, attempato, che passando in un luogo dove c'erano ovviamente le barricate e gli scontri, lui ha trovato l'occasione, si è entusiasmato, non gli stavano molto simpatiche le forze dell'ordine, perché erano quelli che magari lo arrestavano, gli chiudevano la porta la sera di ferro, e quindi ha preso anche lui un sasso e l'ha lanciato, è stato immortalato e l'hanno arrestato. Accusato di devastazione e saccheggio, poi lui sa meglio di me come... vabbè, fortunatamente, perché questo effettivamente... Evidentemente a lui dava fastidio la polizia, cioè non era simpatica la polizia. E alla polizia non era simpatico lui. Qui hanno trovato un escamotage per fargli fare qualche giorno di galera e comunque tenerlo sotto processo per un reato importante in un contesto che non gli apparteneva, perché ok, ti arresto perché hai fatto un furto a Genova, entro in carcere, sto con i miei delinquentelli, come li chiama la società, e è morta lì. Invece no, si è trovato in una situazione dove è finito sui giornali e mi immagino come si possa essere sentito coinvolto in una questione del genere. Poi è stato anche, se la menava, però fondamentalmente è stato anche tranquillo. Però per far capire come queste persone che la perizia ha individuato si sono prestate poi anche a, come si può dire, a una campagna politica, sia purtroppo in alcuni casi anche all'interno del movimento, per tutelarsi da quello che poteva essere la lettura di quell'evento. In realtà c'è stata una rivolta, la cosa scottava. E quindi bisognava in qualche maniera, visto che comunque anche all'epoca, nonostante eravamo tantissimi, ma soprattutto dal punto di vista, cioè nel nostro paese, insomma, questo grosso movimento dei movimenti non era poi così grosso, o quantomeno era già diviso al suo interno, tanto più che si sono nati delle discordie successivamente, è proprio perché alla base c'era un modo di viversi la politica anche fuori, anche extraparlamentare, anche fuori dalle istituzioni, però che aveva con dei punti di vista diversi, agli estremi quasi, no? E quindi chiaramente a noi in qualche modo, ma non per vittimismo, ma ci è stata tolta la parola, o comunque la nostra parola è girata solo in ambiti piccoli o comunque molto autoreferenziali, no? Cioè al pubblico, quello vero, è arrivata solo una certa versione dei fatti, non è arrivata la versione di tutti, cioè effettivamente in quel momento, oppure ce la siamo tolta noi la parola, perché c'è anche da dire, io mi rendo conto che magari in certi momenti è meglio rinchiudersi nel proprio ambiente autoreferenziale, ma anche perché ci si riconosce a quel punto, e affrontare le cose da dietro le quinte sostanzialmente, no? La ribalta è appartenuta solo a un certo movimento, il retroscena eravamo noi, no? Più o meno. No, chiedo conferma perché io sto parlando di una questione collettiva, per cui, cioè, non sono io Genova, magari, se potessi, cioè, è quello assoluto. Il problema, quindi è una grossa responsabilità per me parlare di questo evento e delle conseguenze, no? Cioè, comunque è diventato un fatto storico. E quindi è una grossa responsabilità, quindi perché non vorrei dire stronciate poi, no? Perché poi ricordo, a volte, cioè, ricordare il passato, si hanno dei ricordi molto filtrati, cioè la nostra mente funziona un po' così. No, semplicemente che in generale quello che penso è che appunto sia importante, noi molto spesso colleghiamo Genova solo in, sostanzialmente Genova viene letta solo in due modi, grosso modo. Da un lato tutta la discussione sulla repressione, quanto ci hanno picchiato, la brutalità delle forze dell'ordine, gli arresti, la Diaz, tutto vero, per carità, cioè non è che sto negando fatto, chiaro. Poi figuriamoci, cioè, la Diaz, io ero lì, insomma, cioè, ognuno ha il suo pezzo di storia da portare se vuole. Ma assolutamente. Oppure una sorta di grande movimento molto mellifluo, ma che è stato un po' rovinato dagli eventi. E invece io penso che sarebbe un po' più onesto ricostruire una narrazione di Genova che si concentra appunto sulla molteplicità delle voci che c'erano in campo e della forza che è stata espressa da queste voci, dalle diverse forme di conflitto che ci sono state. Ma questo lo dico, cioè, indipendentemente da dove mi collocassi io o dove si collocasse Marina, perché con ogni probabilità ognuna delle persone a cui viene chiesto, di quelle che c'erano a Genova, dove stava, probabilmente stava in un posto diverso, ma questo non è, cioè, è la forza di quello che è successo in quei giorni, ed è anche la forza propulsiva che, come scrivono altri in Zapruder, è diventato un po' il motore di moltissime altre cose che sono successe dopo. Io penso che ci sia una grossa responsabilità nella discussione post Genova di depauperamento di queste energie in discorsi futili, in discorsi poco rilevanti, fatti soprattutto per lavarsi la coscienza, fatti soprattutto per sentirsi tra i buoni. A me questa roba di sentirsi tra i buoni non mi è mai appartenuta, non mi è mai interessato essere né tra i buoni né di dover giustificare quello che ho fatto per sembrare buono, e mi è sempre interessato, come dire, dare un senso politico alle cose che si fanno. E se queste cose politiche si fanno appaiono cattive, vuol dire che forse c'era bisogno anche di essere un po' più cattivi in alcuni casi, senza vergognarsi di essere cattivi, perché in alcuni casi essere cattivi vuol dire essere contro un meccanismo o dei meccanismi politici, sociali, di vita che non mi appartengono e che io ritengo sia necessario avversare. E quindi forse se si fosse fatto maggiore discussione su questi meccanismi, su cosa aveva significato questa enorme partecipazione conflittuale a Genova in forme così diverse, forse questo avrebbe contribuito ad alimentare di più questo serbatoio di energie e a trasformarlo in un serbatoio che continuamente faceva nascere nuove cose e che forse sarebbe durato anche di più. Mentre invece la mia sensazione è che dopo i primi anni in cui questa forza è stata usata per costruire un sacco di movimenti, un sacco di situazioni, un'esplosione di esperienze che c'è stata dopo Genova, anche a livello internazionale, non so come dire, non solo a livello nazionale, non ci si è preoccupati di riempire questo serbatoio di energie con discussioni che andassero anche dentro le difficoltà di parola tra i vari pezzi di movimento o dentro le differenze di vedute su come si pratica l'azione politica. E quindi penso che forse se questo ventennale può servire a qualcosa, può servire a rimettere al centro non tanto appunto un reducismo su cosa è successo a Genova, su quanto mi hanno fatto male a Genova, quanto sono cattivi i poliziotti o quello che è, ma su i movimenti e l'azione politica sono inseriti in un processo storico di cui fanno parte tutte le persone che li vivono e continuano a farne parte in quanto vivono all'interno della società, all'interno dei luoghi che attraversiamo e che quindi tutto il tempo devono rinnovare la propria azione politica per capire come trasformare quello che esiste intorno a loro. Allora, se Genova diventa il, come dire, la scusa per rilanciare questo tipo di ragionamento sull'azione politica, allora il ventennale di Genova è utilissimo. Se diventa un modo ancora per piangerci addosso oppure per litigare su una roba che è successa 20 anni fa senza cercare di analizzarla per quello che è stato, senza peli sulla lingua, allora non è tanto utile. Questo è come la vedo io, quindi che è un po', mi sembra, quello che stesse cercando di introdurre anche Marina. Sul poi meccanismo, magari... sì, poi dopo passo te. Faccio l'ultima. Sul meccanismo, allora, questi qui hanno fatto, questi qui che non si capisce bene chi sono, che sono tanti questi qui, hanno fatto una rivolta e allora la polizia, non è vero, basta. Allora la polizia è diventata cattiva e allora loro diventano automaticamente cattivi perché hanno incattivito la polizia. A me mi sembra una roba fuori dal normale, cioè non esiste una roba del genere. Allora la polizia è la polizia, cattiva, buona, è la polizia, ha un compito ben preciso che gli è stato, no? Ha il compito che gli è stato attribuito dallo Stato di... il monopolio della violenza, no? Non era così, non lo so, magari sbaglio. Comunque quella roba lì. E allora può usare la violenza. Se uno detiene il monopolio della violenza, la violenza è arbitraria, la può usare quando ritiene opportuno di usarla e poi sbagliare. I carabinieri sono quelli delle barzellette per cui hanno sbagliato a capire quello che il comandante gli ha detto, no, non caricare qui, carica là. Vabbè. Però lo sapevamo anche quando ci raccontavano da piccoli le barzellette, no? Che non erano, magari potevano anche sbagliare e fare violenza gratuita, perché non capiscono bene. Però è un po' quella roba lì, spiace tantissimo, fanno male le manganellate, mi è capitato di prenderle e le sento ogni volta che mi fa male la schiena, adesso faccio la vecchietta, con l'artrosi, cazzo c'ho male qua la schiena perché era il calcio di quel poliziotto, portava l'artrosi ce l'ho. E questo è quanto. Poi no, il discorso è che cattivi e buoni, cosa significa? Significa che noi eravamo cattivi perché abbiamo ritenuto di utilizzare la piazza con una certa modalità, perché quella era la nostra modalità di espressione e di conflitto, è questo. E perché cattivi e perché buoni, cosa sta il buono e il cattivo in un contesto politico, non me lo sono mai spiegata e sono io che faccio una domanda a tutti. perché dobbiamo riportare sul politico quello che non era semplicemente essere buoni, perché poi non c'era da essere buoni a Genova, eh? Io lo rivendico qui, mi potranno anche dare altre misure, ma non c'era da essere buoni a Genova, perché di là c'erano davvero i cattivoni, perché dovevamo essere buoni a Genova, ma perché? Basta, dai, sono stufa. Si è scaldata, le togliamo il microfono. Prima che il magistrato di sorveglianza si interessi. Ma su questo? Sì, solo due parole per ricordare una frase di Pier Giorgio Bellocchio, che peraltro lo portò davanti a un tribunale. Dopo la morte di Annarumma, Pier Giorgio Bellocchio scrisse: in uno scontro tra proletari e polizia la ragione non sta dalla parte di chi ha il ferito o di chi ha il morto, la ragione sta sempre dalla parte dei proletari. Ecco, grazie. Bellocchio, lapidario, come fai a dire di no? Ma non so se entro nel dibattito o vado rispetto a quello che mi era stato chiesto. Ma non lo so, io c'è una foto, sono un po'. C'è una foto a cui sono particolarmente legato di Genova, perché allora ero giovanissimo, ma di ritorno da quelle giornate che avevo passato a scappare dalla polizia mi aveva molto colpito, perché avevo scoperto che non tutti come me quel giorno non avevano capito niente ed erano rimasti in balia delle cariche, ma c'era qualcuno che era riuscito a combinare qualcosa. E quella foto è una foto che poi allora è stata molto riprodotta, poi è scomparsa, e fa parte anche del discorso sulla memoria e l'uso delle immagini che c'è stato in questo decennio. È l'immagine di una figura femminile, minuta, che avanza con un passo deciso verso la camera, che però è molto lontana chiaramente. E è travisata, ha un caschetto, ha il volto leggermente reclinato indietro, quasi a guardarsi alle spalle, e alle spalle di sfondo c'è il portone di Marassi, del carcere di Marassi, che brucia. E perché anche questo è successo a Genova, no? Si parla di vetrine, si parla di devastazione indiscriminata, invece c'era, insomma, sono stati anche colpiti degli obiettivi molto simbolici da chi aveva, diciamo, disertato la zona rossa e deciso di fare qualcosa altrove. Io allora avevo 16 anni, di queste cose ci capivo poco, però mi aveva colpito. È un'immagine che ricordo ancora fortemente. Poi mi smuovo in un sentimento contrastante, perché quell'immagine, tra le tante altre, è finita sui tavoli della questura ed è stata usata poi per fare le identificazioni. Ecco, ci ripensavo in questi giorni, pensavo che mi piacerebbe, a distanza di 20 anni, potermi riappacificare anche con quell'immagine, tornare a rinnamorarmi di quell'immagine lì, di rivedere quei gesti, e cioè tornare a parlare anche di Genova. Poi in questo forse sbaglio, perché è una parte, è la visione di una parte, no? Quindi non riesco forse a restituire ancora una volta quella molteplicità, però tornare a parlare di Genova anche come una rivolta. Ne abbiamo parlato tantissimo come una rappresaglia sbagliata della polizia, e mai più come una rivolta giusta. Invece, a distanza di 20 anni, anche per il mondo che ci troviamo davanti, forse lì, esatto, nessun rimorso, no? Però il lavoro sulla memoria che è stato fatto, cioè io credo che tutto il lavoro di decostruzione, di rielaborazione dalla controparte su Genova sia proprio servito anche per cancellare dalla memoria il fatto che a Genova c'è stata una rivolta, e che quella è una rivolta giusta, e l'hanno dovuto cancellare da destra e da sinistra in varie maniere, proprio per togliere dalla memoria delle generazioni successive quella possibilità lì, no? Quello che ci rimane nel discorso mainstream e non mainstream, abbastanza diffuso, è comunque quello che evocavi ancora tu, no? C'erano compagni diversi, qualcuno ha fatto delle cose che hanno giustificato poi una repressione tremenda. Quella versione lì è stata proprio un modo per cancellare dalla memoria quella rivolta e la giustezza di quella rivolta. Poi mi era stato chiesto per oggi di dire due cose: da una parte di raccontare velocemente, dato che il compagno che doveva farlo non c'è, dire velocemente qualcosa anche sui processi della polizia e poi di parlare di Vincenzo. Sui processi della polizia ho trovato questa frase nella requisitoria finale al processo d'appello del processo dei 25, che dà un'idea del dibattito del tempo. Cioè, lei alla fine della sua requisitoria dice al giudice, dice alla corte: dobbiamo avere il coraggio di chiamare questi fatti devastazione e saccheggio come avremo il coraggio di chiamare massacro quello che è successo alla Diaz. Allora, già allora questo piano discorsivo ci disgustava, perché anche solo paragonare delle torture di gruppo verso persone inermi a delle vetrine rotte o della gente con ossa spaccate, denti rotti, con delle auto bruciate, era un qualcosa di inconcepibile. Però a distanza di 20 anni, visti gli esiti dei processi, possiamo dire che quel piano discorsivo lì non solo era disgustoso, ma era pure un'istanza velleitaria, perché poi alla fine, adesso ve lo dico come sono andati quei processi lì, ma gli apparati non hanno neanche avuto bisogno di dare quel contentino, di concedere quello spazio ai riformisti che chiedevano di modernizzare la polizia, di mettere i numeri identificativi sugli elmetti, di condannare i vertici della polizia. Non c'è stato neanche bisogno di fare quello. Come sono andati i processi penali seguiti dalle giornate di Genova? Allora, il processo per l'omicidio di Carlo Giuliani è noto, è stato archiviato. Il processo per le torture a Bolzaneto, quindi la caserma trasformata in un centro penitenziario temporaneo, si è concluso dopo 12 anni con 33 prescrizioni, 7 condanne e 4 assoluzioni. Ma quasi tutte le condanne, ma forse proprio tutte, adesso non ce l'ho segnato, sono state interamente condonate dall'indulto perché inferiori ai 3 anni. Parliamo di torture su gente inerme, adesso sarebbero da rievocare, probabilmente sono anche note. Santa Maria Capovetere ce le ricorda, tanto per dare l'idea della continuità di come le cose poi non siano cambiate. Il processo all'irruzione della Diaz, dopo 11 anni di processo risultano prescritti tutti i reati tranne uno, ad esempio sono prescritte tutte le lesioni gravi attribuite ai 9 capi squadra intervenute alla Diaz. L'unico reato che arriva a condanna definitiva è quello di falso aggravato, quindi quelli che le molotov, che introducono delle molotov che erano state ritrovate altrove, le portano dentro la scuola per giustificare l'irruzione. Vengono condannati nomi importanti degli apparati investigativi italiani, c'è Franco Gratteri, Gilberto Caldarozzi, Giovanni Luperi. Secondo la Corte d'Appello, appunto, hanno indotto a redigere falsi verbali per giustificare quell'irruzione e coprire i pestaggi. Ecco, vengono condannati a pene comprese tra i 3 anni e 8 mesi e i 5 anni. Ma cosa ne è di loro? Allora, Francesco Gratteri fa carriera nell'antiterrorismo, diventa poi questore di Bari e infine coordinatore del Dipartimento Centrale Anticrimine, ora in pensione. Gilberto Caldarozzi, l'unico che ha ascoltato qualche mese di arresti domiciliari e 5 anni di sospensione dei pubblici uffici. Durante quel periodo di sospensione ha lavorato come consulente per Finmeccanica, di cui era presidente fino a poco tempo fa, lo è stato dal 2013 fino a qualche mese fa, proprio Gianni De Gennaro, che era capo della polizia ai tempi del G8 di Genova. Finiti quei 5 anni di interdizione, dove finisce Caldarozzi? Torna a servizio dello Stato, chiamato da Minniti, ministro dell'interno del PD, che lo nomina vice direttore della DIA, cioè l'antimafia. Quindi possiamo dire che c'è un pregiudicato per falso aggravato che oggi è dirigente, oggi non lo so, fino a qualche tempo fa era dirigente dell'antimafia. Niente di nuovo, però queste cose, per quanto le sappiamo, vale la pena ricordarsene, perché poi ci troviamo in quelle condizioni dove c'è chi chiede che, insomma, che le condanne siano equamente distribuite tra i manifestanti violenti e i poliziotti violenti, con questo uso del linguaggio, tra l'altro, che di neolingua direbbe qualcuno, per cui sotto la parola violenza ci puoi ammucchiare dei gesti così distanti tra loro nei fatti e nelle intenzioni, che è qualcosa di incredibile. Questo per quanto riguarda la polizia. Però l'altra cosa che mi è stata chiesta è di raccontare qualcosa anche rispetto a Vincenzo. Allora, mentre i poliziotti continuavano a fare carriera, nel 2012 arrivano le condanne definitive, che abbiamo detto sono un secolo di galera per 10 persone. Qualcuno però manca all'appello quando iniziano le condanne definitive. Manca Jimmy, manca il Vince. Qualche anno dopo si allontanerà anche Luca Finotti. Lui inizia a scontare dopo perché la Cassazione aveva rimandato in appello e quindi inizia. La sua lettera in Zappa la tua vita poi diventa certo. estremamente condizionata, ovviamente da una certo. misura restrittiva o dalla spada di Damocle di doverla subire. Anche perché parliamo di una manifestazione, dici, non è che hai fatto un'esperienza, adesso per dirne, di lotta armata, un'esperienza politica forte durata 10 anni, che ti sei portato dietro. È una manifestazione che poi 10 anni dopo ancora devi, ti arriva e ancora devi, devi scontare. E oltretutto poi non abbiamo parlato, c'è stato l'11 marzo di mezzo, che è stato forse il vero precedente, tu l'hai citato, è stato il vero precedente sulla devastazione e saccheggio, perché anche se arriva dopo le condanne arrivano, arrivano prima. Però vabbè, parentesi, è un altro discorso, però sono processi, sono, sono anche processi simili, no? Dove si buttano tante gente diversa insieme a processo e poi si vede come, come finisce. Vabbè, ma dicevo, qualcuno manca l'appello e quindi parlando del Vince lo cercano in Italia con un mandato di cattura nazionale, poi iniziano a cercarlo in Spagna, perché in Spagna arrestano Jimmy nel 2013, credo, quindi iniziano a cercarlo lì, ma non lo trovano, a Barcellona lo arrestano, sì. Per quello che possiamo sapere... le indagini vanno avanti a spot, non sono continuate, ci sono dei momenti in cui lo cercano molto, dei momenti in cui le indagini si affievoliscono e quasi si sospendono, come un riflettore che si accende e si spegne sulla vita dei familiari di Vincenzo a seconda del, del momento. E così va avanti per 8 anni, Vincenzo non lo trovano per 8 anni, fino all'8 agosto del 2019, quando viene raggiunto invece in un paesino dell'entroterra bretone, in Francia, a Rochefort-en-Terre. Viene arrestato in un casolare dove sta facendo dei lavori di ristrutturazione per conto di una conoscente, e lo arrestano lì, ma lì succede qualcosa di imprevisto, cioè che questa signora per cui lui stava lavorando avvisa degli amici di Vincenzo lì del posto per dirgli che Vincenzo è stato arrestato. Lei è sconvolta, gli sono entrati in casa, sono incappucciati, l'hanno portato via, tra l'altro Vincenzo stava lavorando con una macchina, un soffiatore che fa molto rumore, quindi non li ha visti fino all'ultimo, gli sono arrivati in stanze, cioè tu sei Vincenzo Vecchi? No, non sono io. Tu sei Vincenzo Vecchi? No, non sono io. Nega, ma se lo portano via comunque, lo portano a Rennes. Lei rimane molto colpita, avvisa questi amici che sono sconvolti anche loro, perché comunque di Vincenzo non conoscevano la storia di prima, non sapevano che aveva avuto problemi con la legge, sapevano solo che aveva abbandonato l'Italia come tanti altri, aveva cercato fortuna altrove. E quindi rimangono un po' sotto shock, però poi decidono di trovarsi tra amici in un circolo per parlarne un attimo, per capire un po' il da farsi. Mi sembra che Vincenzo lo arrestino il giovedì, il venerdì a pranzo si trovano, sono una manciata di persone, il venerdì sera sono in 20, il sabato a pranzo sono in 70, il sabato sera la domenica non si contano più. Proprio c'è stata una cosa spontanea, cioè è un paesino piccolo, però Vincenzo comunque era conosciuto, aveva fatto lavori per quello, per quell'altro, frequentava questo circolo, suonava in un gruppo musicale, comunque era riuscito negli anni, immaginiamo non da subito, però a costruirsi comunque una latitanza con una sua, con delle relazioni, con della socialità, non era chiuso in un fortino sotterraneo, ecco, per fortuna. E quindi nasce un comitato. Nasce un comitato, dentro ci sono la signora della casa dove lui lavorava, la nipote quindicenne di quella signora, il vicino di casa, il coinquilino, gli amici di lavoro e di bevute, veramente una cosa molto, molto composita, tanto che in pieno agosto, 10 giorni dopo il suo arresto, c'è la prima udienza e sotto il tribunale di Rennes sono in 300. E questo condiziona dall'inizio l'iter processuale di Vincenzo, perché i giudici sono costretti a leggere le carte, non possono farle passare come succede spesso con mandato d'arresto europeo che timbri il pacco postale da rispedire nel paese di origine. Quindi sono costretti a leggere le carte sono piene di inesattezze, ci sono mandati di cattura falsi, mancano firme, date, così. Quindi insomma, diciamo, non entrano troppo nel merito di Genova, della devastazione e saccheggio, così, ma decidono di liberarlo per un vizio di forma ed è questa la prima vittoria del comitato. Adesso non vi racconto tutta la storia, c'è anche un intervento del Vince, anche se non parla di questo, però diciamo che questa solidarietà fa proprio un po' la differenza. E Vincenzo praticamente da allora ha passato tutte le tappe giudiziarie possibili, ha accumulato 4-5 verdetti, adesso è in attesa di quello che dovrebbe essere il verdetto definitivo. ma la Cassazione francese non si è sentita di prendere una decisione definitiva da sola, ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia europea e quindi si sta aspettando questo parere per vedere un po' cosa sarà un po' della sua vicenda. Comunque sul piatto ci sono 12 anni e mezzo di carcere che dovrebbe scontare, quindi veramente una cosa che fa la differenza per la sua vita e non solo per la sua, anche per chi gli sta vicino. Quindi è una cosa grossa e speriamo che ci sia attenzione anche nei prossimi mesi, perché potrebbe essere la possibilità di mettere almeno una parola buona su questa vicenda maledetta che è Genova. In conclusione mi limito a dire che questa storia di Vincenzo e della solidarietà che ha ricevuto in Francia in qualche modo ci racconta che c'è ancora spazio per fare la differenza. Ci siamo abituati un po' a questa idea di una macchina della giustizia senza tempo, senza pietà, che ti viene a cercare dopo 20 anni, dopo 30 anni, cioè ne abbiamo viste, no? Ne parliamo anche dopo rispetto agli esuli di Parigi. Ecco, in parte è così, è innegabile, però è una macchina che ancora si può inceppare, ancora si può ostacolare, cioè ancora spazio per fare la differenza, cioè veramente ancora la solidarietà umana, le cose che si possono creare attorno alle persone possono ancora essere una pietra, insomma, nell'ingranaggio di questa macchina qua, e credo che a distanza di 20 anni da Genova e di una solidarietà che al di là dell'esperienza del supporto legale, però sappiamo che questi compagni sono stati lasciati da soli, se non additati, come tra l'altro racconterà anche Vincenzo nel suo audio, direttamente in aula anche come responsabile, poi nel dibattito pubblico. Ecco, la solidarietà invece qua, quel clima lì crea questo tipo di condanne. Una solidarietà come quella che abbiamo visto nel caso francese invece può portare anche a esiti diversi. Quindi credo che comunque andrà a finire un esempio positivo di come si possono affrontare queste cose. Una piccola iniezione di presa bene va sempre bene. Prima di mandare la registrazione di Vincenzo, ne approfitto per segnalare che a giorni, nella settimana entrante, uscirà lo speciale Radio Cane su Genova 20 anni dopo, alla luce dell'idea della sommossa. Tra l'altro contiene anche un bel pezzo di Victor Hugo sugli elementi costitutivi della sommossa, dove c'entra il tipo strano che raccontavi tu. Nicola manda Vince. Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Vincenzo. Grazie per avermi invitato alla vostra iniziativa. Allora, premetto col dire che di già non sono un buon oratore, parlare da solo davanti a un microfono, allora... Quindi, scusate, farò un po' confusione, ok? Allora, mi si chiede di parlare di Genova e del G8 2001. Vado a ruota libera e sicuramente dimenticherò qualcosa o qualcuno per strada. Allora, per iniziare bisogna contestualizzare un po', fare un contesto storico. Allora, siamo alla fine degli anni 90, i primi 2000. Nel 99 a Seattle, negli Stati Uniti d'America, durante un summit, World Trade Organization era, se non sbaglio, esplode una rivolta in una giornata che poi passerà alla memoria per la sua intensità e che da lì in poi i media chiameranno il popolo di Seattle. Quindi sto popolo di Seattle nelle strade della città scatena dei riot piuttosto violenti. E quello che salta agli occhi è che durante queste rivolte non sono come al solito i manifestanti ad essere le vittime della polizia con caschi, manganelli e tutto l'armamentario. Al contrario,

Bon, dai, per concludere, io penso di aver detto, sono stato magari un po' breve, penso di aver detto più o meno tutto quello che potevo dire su Genova il G8. Non so, potrei concludere parlando un po' della mia situazione, ma non penso che sia la sede ideale per parlare di questo. Va bene, niente, dai, questo era un po' il mio contributo, spero che sia utile per la vostra iniziativa. E vi ringrazio ancora per l'invito e buona continuazione. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ringraziamo Vince per questo suo intervento. Segnalo il fatto che l'incontro odierno sta andando in streaming e potrà poi essere riascoltato come podcast sul blog di Conchetta. In particolar modo questo intervento, secondo me, merita di essere riascoltato perché è particolarmente denso, e illumina certe questioni che finora sono state troppo poco considerate, a partire da un vissuto molto preciso e impegnativo. Bon, continuiamo con gli aggiornamenti sulle rogne dell'oggi, con la questione delle sorveglianze speciali. Quindi Stefania ci riferisce. Sì, non è facile così adesso catapultarsi nel presente perché immaginavo ci fosse un po' di discussione invece sulle questioni, magari si farà dopo, non so. Allora, in realtà la continuità c'è tutta perché quello adesso l'occasione per parlare viene dal fatto che lunedì avremo un'udienza a Bologna per una richiesta di sorveglianza speciale per i compagni e le compagne che erano state arrestate l'anno scorso per l'operazione chiamata Ritrovo e che avevano un'accusa di 270 bis con finalità di terrorismo. E quindi l'occasione è questa, dopo spiego alcuni passaggi meglio, però penso che in questo contesto sia utilissimo sapere che esistono anche misure cautelari cosiddette minori, che vanno a incidere pesantemente sulla vita dei compagni e delle compagne o insomma a chiunque capiti e che vengono, mi verrebbe da dire, sottovalutate, ma non è così, è che ovviamente se qualcuno finisce in carcere è più facile mobilitarsi, scattare e portare nelle piazze o nelle strade la solidarietà. Quando si tratta di misure così subdole diventa un po' più difficile, ma e questo è lo scopo di queste misure, no? Che poi possono, in questo caso stiamo parlando parlerò della sorveglianza speciale, però riguardano misure come obblighi di divieti di dimora, il DASPO, che bisognerebbe dedicare attenzione e discussione a questa misura che è già da anni che viene utilizzata, ma verrà utilizzata sempre di più, o anche un banale foglio di via. Comunque mettono chi ne incorre in una situazione difficile da gestire anche come reazione. Per esempio, che cos'è la sorveglianza speciale? La sorveglianza speciale è comunque un istituto che ha una origine lontana, esisteva già nel codice Zanardelli di fine 800, era già prevista nel cosiddetto codice sardo che poi diventerà il codice penale italiano e comunque nasce con l'esigenza di chi governa e del potere di mettere a tacere il dissenso. In sostanza sono misure di prevenzione, cioè mentre un arresto non potrebbe avvenire qui in Italia per prevenzione di possibili reati, queste misure invece sono fatte apposta per poter togliere di mezzo qualcuno che si pensa potrebbe commettere dei reati. Ecco che allora in un momento, ogni tanto, storicamente, questa misura è stata tirata fuori. Per esempio, proprio dopo Genova, quando noi scrivemmo in un opuscolo delle considerazioni sull'avviso orale e la sorveglianza speciale, ci accorgemmo che proprio negli anni dopo il 2001 aveva ricominciato ad essere utilizzato molto di più. Scusate, mi sono un po' perso, ho detto che c'erano tracce nel codice Zanardelli, e poi ovviamente conosciamo il codice Rocco del 1925 e il Confino, e poi in Italia, cioè sempre per parlare dell'Italia, nel 1956 con la legge 1423 si definisce meglio che cos'è la sorveglianza speciale, che poi guarda caso viene rivista all'interno nel 2011 all'interno del codice antimafia, perché tanto ormai tutta la gestione della repressione della giustizia in Italia è in mano all'antimafia e all'antiterrorismo, e ancora una volta anche la sorveglianza speciale viene ridefinita all'interno del codice antimafia. Stavo dicendo che quindi diventa un, essendo di per sé una figura, un'istituzione, un provvedimento, scusate, preventivo, ha anche una definizione ben poco chiara, per cui in realtà si apre la prospettiva di poterla applicare in modo del tutto arbitrario, cioè si fa, sono tre, diverse ormai adesso molte di più, inizialmente erano tre le categorie che potevano finire sotto sorveglianza speciale: chi era dedito abitudinariamente a attività delittuose, chi non potendo dimostrare di avere i soldi per vivere si doveva supporre che rubasse, e poi chi era socialmente considerato socialmente pericoloso. Ora ne sono state introdotte molte altre. Ecco, comunque definire queste situazioni è veramente difficile, no? Quindi non lo so, l'articolo 1 appunto di questa legge è molto molto sfumato, parla di concetti di moralità, di comportamento che possono essere utilizzati in modo del tutto arbitrario, e in questo caso devi sperare che il giudice di fronte al quale verrà portata la richiesta per la tua sorveglianza sia dotato di un minimo di intelligenza e di consapevolezza umana. Quindi per cosa si rischia quando, scusate, sto cercando di andare in fretta perché so che non c'è molto tempo e quindi probabilmente non sono per niente precisa, però penso che sia forse il momento di spiegare che cosa succede se ti viene data questa sorveglianza speciale. Succede che praticamente non puoi frequentare più nessun ambiente, qua non potresti venire, non puoi frequentare pregiudicati, in molti casi hai l'obbligo, può esserci l'obbligo di dimora nel luogo dell'abitazione, e il rientro notturno, quando dal tramonto all'alba veniva recitato nelle vecchi codici. E quindi praticamente la tua vita di persona la dedica specificatamente alle lotte viene completamente annientata. Ovviamente questo è l'obiettivo è quello di eliminare dal contesto di lotta e anche dal contesto amicale, perché gli amici spesso sono gli stessi compagni, chi viene colpito da una misura di questo genere. Può andare da un anno a 5 anni e può avere appunto diverse caratteristiche. Ti possono anche togliere la patente, il passaporto e chiederti anche di andare a firmare ogni giorno in questura. Quindi insomma, diciamo una vita rovinata sulla base praticamente del nulla che debbono fornire. Adesso velocemente faccio riferimento a Bologna. Siamo stati arrestati l'anno scorso, come vi ho detto, con l'accusa di 270 con finalità di terrorismo ovviamente, però poi siamo rimasti sotto provvedimento per 6-7 mesi, però ci sono due pronunciamenti della Corte del Riesame e della Corte di Cassazione che elimina la finalità di terrorismo. Ora il PM D'Ambrosio cerca di far rientrare ciò che è uscito dalla porta, dalla finestra, come si suol dire, e sulla base di questa operazione, la stessa che ha avuto già due pronunciamenti in cui l'accusa di terrorismo è decaduta, lui la ritira fuori cercando di farci dare questa sorveglianza. Insomma, ovviamente per chi lotta non c'è speranza di poter respirare, non dico che non c'è speranza perché speriamo proprio che non ce la diano, ma di respirare assolutamente no, gli obiettivi sono quelli di togliersi da piedi figure che disturbano, ma soprattutto di minacciare tutti gli altri: guardate che se intendete lottare non vi passerà più, cioè perché o vi incarceriamo con inchieste anche traballanti, ma intanto vi teniamo lontani, vi spaventiamo, vi facciamo passare dei mesi o degli anni in carcere, anche quando va a finire bene che si viene assolti, ma anche se verrai assolto comunque sia cercheremo di darti o fogli di via da ovunque tu cerchi di andare o proviamo a chiedere per te la sorveglianza speciale che ha appunto queste caratteristiche che vi ho detto, e non è che sia facile far finta di non averla quando ce l'hai, perché si rischiano dall'1 ai 5 anni di carcere se tu non la rispetti, quindi non è che siano questioni che rendono facilissime potervi far fronte. Ovviamente ci sono molti modi e in casi in cui è stata data anche con i compagni e compagne hanno cercato il loro modo per non venire completamente tagliati fuori. Qua c'è ovviamente bisogno anche di chi si è intorno per riuscire a non cadere nell'obiettivo voluto, che è quello del completo isolamento e allontanamento dai tuoi contesti di vita e di lotta. Io non direi di più di questo, spero di non essere stata troppo frettolosa o confusionaria, però più o meno poi ci sono tanti scritti, tante cose sulle quali andare ad approfondire. Quello che ci tenevo a mettere in evidenza è: attenzione, non ci sono soltanto sottolineato misure preventive violente come il carcere o gli arresti domiciliari, ci sono anche tutte queste misure considerate minori che però sono veramente afflittive e difficili da gestire in una quotidianità. Grazie. Grazie a te Stefania. Hai tralasciato solo di dire che la misura per te richiesta è di 5 anni, che finora è un record. Il massimo è 10, sono stati chiesti 5. Non risulta che in casi precedenti per i compagni siano stati richiesti così tanti anni. Allora, sì, poi vi volevo dire che il 12 a Bologna c'è un'iniziativa dalle 9 sotto il tribunale, lo dico perché è giusto insomma anche riferirlo, anche se non siamo lontani. Sì, poi fanno anche delle furbate, però su questo magari ne parleremo anche se dedichiamo tempo a queste misure cautelari apparentemente minori. No, alla fine abbiamo scoperto che anche, è vero, mi ero scordata di dire tutto ciò, che negli ultimi mesi sono state richieste in Italia, è stato ritirato fuori e ritornata di moda, per cui sono state fatte 4 richieste a Cagliari e i compagni cagliaritani, dopo che hanno saputo della nostra, si sono accorti che anche la loro era qualificata, cioè quindi qualificata vuol dire solo pericolosità, cioè perché per reati di terrorismo. E poi era stata richiesta anche a Genova, sempre qualificata, però in subordine era stata chiesta quella generica e alla compagna è stata data poi quella generica. Ed era 5 anni anche per lei e mi pare anche per i cagliaritani, però questa dei 5 anni è una novità recente, non siamo gli unici ma è una novità recente. Grazie Robin. Tanto varrebbe sostituire la dizione la legge è uguale per tutti con un bel oramai vale tutto. Questo è il contenuto effettivo di quest'uso creativo del diritto. A riguardo il caso Persichetti è anch'esso significativo, probabilmente ne avete letto qualcosa sui giornali qualche settimana fa e adesso ce lo racconta brevemente lui stesso. Vai Nicola con Persichetti. Poi dobbiamo cercare di stringere un po' perché ci sono gruppi numerosi fuori dalla porta, dobbiamo fare la presentazione del fumetto, poi il firmacopie, eccetera. Però vediamo di starci dentro al meglio. Ma non so, parto non so dagli aspetti dell'inchiesta, perché allora il problema è questo, che ovviamente allo stato attuale io ho una conoscenza parziale delle carte contenute nell'inchiesta, non abbiamo una conoscenza completa, ovviamente ci siamo fatti un'idea, intanto le notizie che abbiamo è che ce ne sono 2 di inchieste che mi hanno riguardato, iniziate grosso modo sembra gennaio 2019, ma poi ci sono delle intercettazioni addirittura da dicembre 2018, è un'inchiesta milanese condotta dal PM Nobili e relativa praticamente all'estradizione, alla riconsegna in Italia alle autorità italiane, al rapimento, al prelevato, perché non è un'estradizione, di Cesare Battisti. Non ho idea del perché io stia lì dentro, però ci sto, questo lo so. Quell'inchiesta è stata archiviata, io quindi sono stato pesantemente indagato con intercettazioni, addirittura con delle ambientali. E una parte di quell'inchiesta, lo so, ho scoperto questo perché una parte di quell'inchiesta è stata versata nella nuova inchiesta della Procura di Roma, diretta dalla Genova. E quindi ci sono questi due dati che si intersecano, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Siamo in fase di, come dire, di raccolta documentale, abbiamo fatto le varie richieste che vanno fatte, ci vanno dare i documenti e via dicendo. Per quanto attiene appunto alla seconda inchiesta, questa di Roma, la cosa interessante da rilevare è questa, che c'è uno slittamento continuo del titolo di reato, del capo di imputazione. Fine 2020 l'inchiesta inizialmente contro ignoti si qualifica su di me con violazione di segreto d'ufficio inizialmente. Poi, dopo l'interrogatorio dell'ex presidente della commissione Moro, Giuseppe Fioroni, all'improvviso c'è un'accelerazione e il vecchio titolo, il vecchio capo di imputazione cambia e diventa favoreggiamento con il supporto dell'associazione sovversiva. E l'associazione sovversiva di cui sono mono associato, nel senso che non c'è definizione delle condotte di reato, cioè non è spiegato dove, quando, come, perché, in che maniera avrebbe agito questa associazione, non c'è nulla, c'è il vuoto completo. Ma poi sono l'unico associato, il che è già una contraddizione in termini, perché non c'è associazione se non c'è un altro associato. E poi ultimamente, quando c'è stato il riesame, i giudici del riesame hanno proposto un'ulteriore qualificazione che praticamente è la violazione di segreto politico, segreto di Stato, una cosa enorme, gigantesca. Quale da dove partirebbe questa cosa? Da questo famoso, questa famosa bozza della prima relazione annuale bilancio dei lavori fatta dalla Commissione, che io ho avuto e avevo spedito a tutta una serie di testimoni, perché che fa lo storico? Lo storico raccoglie le fonti, cioè indaga, e raccoglie fonti documentali e fonti orali lì dove sono ancora presenti. E siccome c'era un punto specifico di questa relazione che riguardava la vicenda dell'abbandono, una vecchia storia, in realtà non c'era niente di nuovo perché già stanno i Famigni, già se ne erano occupate le precedenti commissioni, quindi dal punto di vista delle notizie in sé non c'è nessuna novità, quindi no, non c'è un elemento di segretezza, no? Un dato nuovo che emergeva e che così viene rivelato. Era roba fritta e rifritta, insomma, ribollita e ribollita. Un dettaglio specifico riguardo a quelle che sono le relazioni. Le relazioni non sono documenti primari. Il documento primario sono atti di indagine, atti investigativi, che ne so, fonti che vengono ascoltate e che vengono tenute segrete, insomma, no, che sono relative ad un'indagine che è in corso. Quelli sono i documenti primari. Io vengo accusato invece di aver divulgato, ma tra l'altro io non ho accesso, per cui sarei il secondo, il terzo, forse il quarto, forse il quinto anello di una catena, non sono io che avevo accesso in commissione, qualcuno me l'ha dato, spesso qualcuno forse l'ha preso da un altro, forse da un altro ancora, adesso d'accordo, però barbagato vengo colpito per questo. Quindi c'è una natura pretestuosa, come dire, l'aggancio formale che loro hanno utilizzato per venire a fare la deposizione. Questo documento, peraltro, studiando, riguardando i regolamenti interni della Commissione, come dicevo, non risulta che le bozze di relazione siano documenti, tra virgolette, riservati. C'è un problema di opportunità nella riservatezza, perché loro giustamente la stanno discutendo, la stanno emendando, la stanno votando, non gradiscono che circoli. Da questo punto di vista qua diciamo che è sollecitata la riservatezza, ma come indice di segretezza o di riservatezza è pari a zero. E in ogni caso loro ci sono attaccati a questa cosa, e io questo documento l'avevo inviato, diciamo, a giro a diverse persone, anche tra l'altro ai miei collaboratori del libro, no? Perché c'era questo punto di attrito particolare, che era questo vicenda del Cigno Calvo e delle macchine. No. Questa è una cosa importante, perché da lì siamo nel autunno 2015, anzi in realtà già a dicembre, inizia tutto il lavoro di, a partire da questo dettaglio, di ricostruzione che io vado a fare con tutte le varie fonti di quella che sarà la vicenda Via Fani, che poi è versata in un capitolo del libro. Molto dettagliata, quella via di fuga, fatta proprio con una cura particolare, è stato un lavoro mastodontico. E qui sopraggiunge un altro aspetto, perché che cosa sostengono? Io qui mi tengo alle carte che ho letto, noi non sappiamo ancora tutto. Loro dicono che avrei fatto un'azione di favoreggiamento perché non ho riportato tutto quello che le fonti mi dicono. Quali fonti? Loro ovviamente conoscono un piccolo tratto del mio rapporto con le fonti, perché hanno intercettato le comunicazioni tra Casimir e lo Iacono, che si parlavano. Io poi invece mi parlavo con lo Iacono, quindi loro hanno intercettato prima loro due e poi ovviamente le comunicazioni con me. Ma io, come dire, la mappatura delle fonti era molto più ampia. Quindi loro ci dicono delle cose, ovviamente stanno a oltre 40 anni dai fatti, quindi non ricordano, si sforzano, discutono, hanno versioni diverse, via di seguito. È chiaro che poi a me, quando mi viene data una versione, io la vado a confrontare con le altre fonti, faccio un lavoro anche di confronto documentale, faccio una verifica sui luoghi, no? E questo lavorio artigianale, no, col passato, poi produce a un certo punto, lo storico decide, insomma, no? E come dire, mette per iscritto quella che sembra la versione più plausibile, quella che logicamente, sulla base di tutta una serie di elementi che tu hai raccolto, ritieni essere la dinamica reale dei fatti. No? Quindi a questo punto, se c'è un soggetto che mi può contestare il lavoro che ho fatto, è un soggetto mio pari grado, cioè è la comunità scientifica, la comunità degli storici e chi si occupa di questa materia. Non può essere certo il poliziotto che dice: ah, ma tu non hai riportato tutto quello. Ma il problema è che il lavoro storico non è un verbale di polizia, dove si raccoglie qualunque cosa viene detta, deve essere scritta e messa lì. No, tu fai una selezione, ripeto, e poi se ci sono elementi che non trovano una, non vengono suffragati, e io non è che do adito a delle ipotesi che non sono sostenibili, no? E loro dicono che però appunto c'era questa discrepanza, che va a riguardare, adesso non entro troppo nei dettagli, insomma, veramente delle questioni di dettaglio di quella vicenda. Una è sicuramente, l'ho immaginata subito, perché adesso non ho visto le mail che loro mettono come allegati, che riprova di questa mia favoreggiamento. Però un elemento che ricordo bene, dove c'è stato un grosso problema, riguardava c'è un secondo furgone che viene impiegato nel sequestro, che era un furgone di riserva, che doveva servire nel caso il primo trasbordo avesse presentato dei problemi o non fossero stati in grado di fare il trasbordo, se c'era delle persone che avevano intravisto quell'evento, loro per sicurezza avevano pensato di fare un secondo trasbordo in un'altra zona di Roma. E invece, a quanto pare, la polizia ficca il naso e pretende di giudicare, farti la recensione. Loro le recensioni non è che te la scrivono sul libro, te la fanno con un sequestro, con una incolpazione, insomma, ecco. Diciamo che la questione nel dettaglio è questa qui. Questo che cosa significa? Beh, significa che c'è una criminalizzazione delle fonti, c'è una messa in discussione dell'indipendenza del lavoro storiografico. Non solo, ma poi si sono aggiunti altri elementi, perché in sede di riesame è venuto il PM che conduce un'inchiesta in prima persona, fatto rarissimo. In genere i PM non si scomodano nel riesame, c'è il PM di turno. Invece è venuto lì a difendere la sua inchiesta, quindi segno anche di debolezza, di preoccupazione, e là ha tirato fuori una serie di un ragionamento inquietante, perché praticamente dalle parole dette dal PM sembra che la procura segua lo schema interpretativo su cui ha lavorato la commissione Fioroni negli anni passati, ovvero uno schema totalmente complottista dietrologico, per cui loro hanno parlato di possibilità di altre basi dove è stato tenuto Moro, quindi di militanti ancora non identificati, perché chiaramente se c'è una base c'è qualcuno che la gestisce, che ne è il proprietario o l'affittuario, no? E quindi ha evocato questa ipotesi e quindi è il fatto che stiano lavorando su una pista del genere. E lasciando intendere che quindi nel mio archivio, nel mio lavoro di ricerca, loro possano trovare delle indicazioni in tal senso. Il risultato di tutto questo è un attacco veramente violentissimo. Voi dovete immaginare le conseguenze. Un'indagine del genere ha una durata da 18 a 24 mesi. Quindi io sono paralizzato per 24 mesi. Non so quando riavrò il mio interarchivo e se lo riavrò e che in condizioni lo riavrò. Oltretutto nel materiale preso, perché è stato un sequestro indiscriminato, fatto a strascico, hanno portato via tutto. Cioè io nella storia della mia famiglia non c'è più tutte le foto nostre, le foto di Valentina, è una fotografa, tutto il suo archivio da quando era ragazza che fotografava, non c'è più i materiali di mio figlio, dei miei due figli, quelli scolastici, quello sanitario di Sirio, insomma una quantità incredibile di materiale che non andava preso. Hanno fatto un'azione indiscriminata e si sono portati via tutto. Questo già è un altro elemento che si aggiunge gravissimo. Ma poi dicevo, io sono menomato adesso nella mia attività di lavoro storiografico. Primo perché se entro in un archivio verrò visto con grande diffidenza e timore, non ho detto che mi diano più le autorizzazioni che mi hanno dato prima. In secondo luogo, ma se io vado verso una fonte orale e la vado ad interrogare, mi vado a chiedere, fare delle domande, perché mai questo dovrebbe collaborare con me? Visto che questa attività è stata inquadrata come un'associazione sovversiva, un'azione di favoreggiamento, c'è un'intimidazione evidente a quelle fonti. Il messaggio è chiaro, voi non dovete parlare, cioè se dovete parlare dovete parlare con noi all'interno del nostro quadro, non lo potete fare all'interno della ricerca storica indipendente, è palese, è chiaro, e le conseguenze mi sembrano evidenti. Insomma, qui in Italia non si può far storia su quegli anni, questo è un dato di fatto. C'è un libro che è uscito nel 2017 che oggi è oggetto di indagine, è una cosa surreale, assurda, che misura anche tutto sommato la timidezza con cui questa vicenda è stata denunciata, perché non ho visto se grandi, no? So che ne hanno stata commentata da tutti in modo molto preoccupante anche, ma in privato, non ci sono state prese posizioni pubbliche significative, poi mi riferisco in particolare nel mondo degli storici, perché io direi se quando c'è un precedente, se un precedente passa, adesso vale per me, domani verrà anche per gli altri, e quindi questa, io non dico anche opportunisticamente, dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe far riflettere e suscitare una reazione, insomma. Veramente surreale quanto racconta Persichetti. È un grande storico, Carlo Ginzburg, ha scritto un libro importante che si intitola Il giudice e lo storico, a proposito del processo Calabresi. E mi sa che a Persichetti toccherà di scrivere Il carabiniere e lo storico. La portata di questa iniziativa, di questa doppia inchiesta e di questo sequestro sul fare storia non va assolutamente sottovalutata, anzi al contrario. Resta la domanda su che cosa possano centrare le carte mediche del figlio disabile di Persichetti con l'ipotesi di favoreggiamento a proposito del sequestro Moro. Dobbiamo tagliare l'intervento di Scalzone, che sarà comunque ascoltabile sul blog di Conchetta e che sarà recuperato dopo l'estate, quando pensiamo di far venire un compagno avvocato molto bravo, Raphael Kempfer, autore di un libro importante sulle leggi scellerate, cosiddette in Francia, dalla legislazione anti-anarchica di fine Ottocento alla legislazione antiterrorismo contemporaneo, la nuova legge di sicurezza e la questione degli estradati, quindi ci sarà occasione di riparlarne. Per restare nei tempi passiamo direttamente alla presentazione del fumetto. Mezza parola solo per dire che il 14, che mi pare essere un mercoledì, avremo qui i lavoratori in lotta della redazione del Saggiatore, che incontreranno e discuteranno con i magazzinieri di Stradella che hanno bloccato quell'enorme punto di distribuzione di messaggerie. In questa serata che si chiama Cartalotta, il libro nelle mani di chi lo lavora, dalla redazione al magazzino. È un incontro a cui teniamo molto perché è la prima volta che figure diverse, ma che lavorano sullo stesso segmento produttivo, l'editoria, si parlano e vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Bon, andate. Bene, adesso apriamo questa ultima parte di questa iniziativa. So che molti sono venuti anche per il firmacopie che si svolgerà alla fine, ma purtroppo per voi si svolgerà alla fine dopo che abbiamo parlato tutti noi e quindi dovete resistere ancora un pochino. Diciamo che questa seconda parte è dedicata alla presentazione di questo volume che si chiama Nessun rimorso, Genova 2001-Genova 2021. Questo volume è un'antologia fumetti. Non è solo un'antologia fumetti, perché contiene oltre a una serie di fumetti che dopo Oscar della Coconino magari entra più nel dettaglio nel descrivervi, contiene anche una serie di testi politici che invece abbiamo redatto noi di supporto legale. In particolare i testi della prima versione di questa antologia che si chiamava Genova versus G8 e che abbiamo fatto nel 2006 come attività di autofinanziamento proprio in prospettiva delle sentenze di primo grado del processo ai manifestanti per devastazione e saccheggio e come anche forma di lancio del grande corteo che organizzammo nel 2007 proprio in sostegno degli imputati e delle imputate e che fu un discreto successo dal punto di vista della partecipazione. Ai testi politici che pubblicammo all'epoca abbiamo aggiunto un testo che secondo noi attualizzava un pochino il nostro punto di vista a questi anni qua perché tutta questa operazione si inserisce all'interno di un tour che coinvolge anche un documentario che verrà presentato come prima il 20 luglio a Genova al CAP, un documentario su supporto legale che racconta un po' la nostra esperienza e secondo noi racconta anche un certo tipo di punto di vista su Genova e sulle vicende di Genova, un punto di vista che è appunto quello della solidarietà concreta, della memoria come ingranaggio collettivo che è diventato un po' uno slogan che ha caratterizzato un po' tutto il nostro percorso e che sottolinea quanto sia importante la presa di parola, la presa di parola da parte di tutte le persone che hanno vissuto quelle esperienze e la presa di parola in generale delle persone che vivono direttamente le esperienze di lotta e di conflitto sui territori. Quindi noi pensiamo che prendere parola, raccontarsi e trovare strumenti diversi per raccontarsi sia un processo importante per sedimentare la memoria e un processo importante per trasformare la memoria non in uno strumento semplicemente rievocativo, ma in uno strumento fattivo che alimenta le energie che poi a loro volta si incarnano nei conflitti e nelle lotte in tutti i territori, in tutti i percorsi che in questi anni si sviluppano. Un po' come abbiamo scritto la memoria deve essere usata come strumento per procedere, non per conservare o per rimpiangere, per poter rimettere il conflitto al centro di un'idea diversa del mondo e del modo di vivere. E se questa cosa per noi vuol dire prendere parola e incarnarla in fumetti, in disegni, in immagini, in racconti, e vuol dire soprattutto avere la capacità di non tirarsi indietro quando è necessario prendere posizioni scomode, come è stato fatto un po' anche oggi pomeriggio, no? Che ha voluto raccontare anche un modo diverso di rievocare e di interpretare le giornate di Genova, che non sia appunto solo legato ai racconti che abbiamo già sentito molte volte, che peraltro di cui nessuno peraltro nega né la verità né la legittimità, però come dire che rappresentano solo una parzialità del racconto di quello che è stato Genova e forse in alcuni casi una parzialità che non aiuta a scegliere il campo in cui stare, non aiuta a scegliere in che senso essere partigiani quando si incrociano le lotte e i conflitti nella propria vita. Ed è questo che noi speriamo di riuscire a trasmettere attraverso questo lavoro che abbiamo fatto, che devo dire è stato molto faticoso e per il quale ringraziamo tutti gli autori e le autrici che hanno contribuito, perché veramente, ovviamente, senza di loro non sarebbe mai esistito. E devo dire che dopo aver raccolto tutti questi lavori e averli letti tutti insieme, aver visto il volume stampato, siamo molto soddisfatti di quello che ne è uscito fuori, e penso che lo siano un po' tutti. È importante per noi ringraziare anche Forte Pressa, che è stato l'editore della prima edizione, e senza il quale ovviamente non ci sarebbe stata neanche la seconda edizione, e ovviamente Coconino, che si è prestata a darci una mano per mettere insieme la seconda edizione che vi presentiamo oggi. Io adesso lascerò la parola a Oscar di Coconino e poi a Zero Calcare e Martoz, che sono due degli autori presenti e che vengono qua a raccontarci un po' come è stato per loro invece contribuire a questa antologia. Allora, io volevo dire questo, che sono stato contattato dalla, diciamo, colonna romana di supporto verso la fine del 2020, all'inizio del 2021, adesso non mi ricordo esattamente, con l'idea di inizialmente di ristampare il libro che NDA Press insieme a Forte Pressa pubblicarono appunto nel 2006 riguardante le giornate di Genova. Era un libro molto bello, io già l'avevo chiaramente e personalmente da subito mi sembrò un'ottima idea, primo perché a differenza di molte antologie a fumetti su argomenti politici partiva già da una qualità molto alta, e quindi me lo ricordavo bene proprio perché era un buon libro con ottimi autori e uno sguardo interessante sia dal punto di vista artistico e ovviamente anche politico. Dopo una prima riflessione, parlandone anche con la redazione di Coconino, ci è sembrato però che una cosa fosse importante, e cioè quella di non fare una semplice ristampa di quel libro, e quindi non un semplice aggiornamento, ma di utilizzare l'opportunità di fare un nuovo libro su Genova 20 anni dopo, e quindi 15 anni dopo quello della NDA Press, approfittando anche di alcuni fattori, e in particolare quanto il fumetto era cresciuto nel frattempo, uscendo da un circuito che al tempo era abbastanza chiuso e che quindi è, per quanto riguardava le autoproduzioni, riguardava un po' il giro, diciamo, della autodistribuzione e dei centri sociali e delle librerie antagoniste o indipendenti, e invece considerando il fatto che il fumetto, anche grazie a quello che aveva fatto Michele in questi 15 anni, era diventato a tutti gli effetti, è diventato a tutti gli effetti un linguaggio in grado di parlare con la stessa dignità e anzi con una potenza di fuoco forse anche maggiore rispetto a quelli che sono gli altri media, di usare questa opportunità per provare a dare uno sguardo un po' diverso, quindi uscire da quella che era un'ottica prettamente underground per provare invece a coinvolgere anche degli autori che in parte erano propri della nostra casa editrice, che lavoravano e facevano parte del nostro catalogo, ma che nel frattempo anche al di fuori della Coconino si erano distinti per un certo tipo di sguardo, un certo tipo di tematiche che secondo me erano interessanti. Lo stesso Michele 15 anni fa era un autore di nicchia, un autore, diciamo, underground, che muoveva i primi passi e nel frattempo invece è diventato una, diciamo, uno degli autori forse più importanti, potrei anche levare forse a livello editoriale, soprattutto per quanto riguarda le tematiche politiche. E quindi mi sembrava molto interessante questo, cioè il fatto di uscire da un'ottica underground e di provare a coinvolgere degli autori che normalmente lavoravano anche a livello di mainstream. E quindi l'idea era quella di non fare una semplice ristampa, ma di aggiungere una buona mole di pagine che provassero a attualizzare e a offrire un'ottica diversa su quei temi. Un'altra valutazione che mi sembrava doverosa era il fatto che questa prima edizione della NDA Press, che ripeto, fatta in collaborazione con Forte Pressa, che era molto bella, scontava un altro piccolo problema, cioè che non ci fosse, che non c'era nessun autrice femminile. Questo perché, non perché diciamo chi ha fatto quel libro era maschilista o perché ci fosse un'ottica maschilista, ma perché effettivamente al tempo il fumetto era per la maggior parte fatto da autori maschi. Erano molto poche le autrici e soprattutto erano molte poche le autrici delle quali potevamo essere diciamo sicuri che avessero qualcosa di politicamente interessante da raccontare. E quindi un altro motivo che mi sembrava importante era quello di coinvolgere una serie di figure femminili che potessero dare uno sguardo diverso. Altra occasione che mi sembrava da cogliere era quella di coinvolgere autori e autrici che non solo non erano stato a Genova in quelle giornate, ma che al tempo magari avevano 4 anni, 5 anni, 11 anni, 20 anni e che quindi avevano la percezione di quegli eventi come qualcosa che avevano conosciuto solo attraverso la televisione, solo attraverso alcuni film oppure attraverso delle pubblicazioni appunto non a fumetti. Mi sembrava molto interessante e quindi abbiamo iniziato questa ricerca su chi potevano essere degli autori anche politicamente non schierati che però potessero fornire uno sguardo utile sotto questo punto di vista. Qui ne abbiamo uno, è Martoz, che è stato uno dei primissimi che io ho contattato e poi magari parleremo anche un po' di come è andata la sua chiamata, perché lui è stato uno dei primi a dire subito di sì ed è stato anche uno dei primissimi a consegnare, perché i lavori preparatori diciamo sono iniziati intorno a marzo-aprile e lui, dopo che ti ho contattato, dopo quanto mi ha mandato la storia, pochissimi giorni, penso, no? Ma mi sa tipo la settimana dopo. La settimana dopo, esatto. Vabbè, più che altro perché volevo essere sicuro di non ridurmi all'ultimo, quindi, cioè, non... quindi sì. Che poi tipo il giorno prima di andare in stampa mi chiamavi e dovevo fare una cosa fatta velocemente, veniva male. L'avevi fatta velocemente subito? No, beh, ci ho lavorato lentamente per una settimana. Ci ha lavorato lentamente per una settimana e è stato fra i primissimi a consegnare, quindi parliamo di un autore che ha consegnato a aprile, quando poi il libro è stato chiuso diciamo metà giugno e forse anche un po' più là. Specialità della casa è rompere le scatole per dettagli considerati da tutti tranne che da noi irrilevanti, tipo ma quella preposizione lì non è che va tanto bene, la sottolineatura rossa punteggiata, no, facciamola gialla, sa che no ce però la facciamola rossa, no vabbè facciamola gialla. E quindi prima di lasciare la parola a Michele e a Martoz e poi magari di riprenderla per invece raccontarvi il coinvolgimento di altri autori, vi voglio dire l'altra cosa importante che ho, in quanto Coconino, ho cercato di fare con tutte le mie forze. E cioè che un'altra cosa che secondo me andava rivista rispetto alla prima edizione era il fatto che se aprivi il libro c'erano un blocco di fumetti che parlavano di quell'esperienza là, a parte diciamo, l'introduzione all'inizio, il testo di Harry De Luca, però poi c'era una sequenza di fumetti e poi alla fine in coda c'erano tutti gli interventi di supporto legale. Ecco, invece a me da subito mi piaceva l'idea di costruire il libro e quindi di far ruotare gli interventi a fumetti intorno ai testi che supporto legale ci avrebbe dato. Questo perché sapevo che avrebbero affrontato tutte le tematiche che riguardavano l'esperienza di Genova, Quindi il processo ai 25, la Diaz, Bolzaneto, Piazza Limonda, la stessa storia di supporto legale che era una storia molto importante da raccontare. Non volevo che questi testi fossero messi in coda, ma volevo che i fumetti ruotassero intorno a questi testi, perché dava anche l'opportunità, da una parte, di rendere il libro molto gradevole da leggere, e quindi i testi funzionavano da stacco per i fumetti e viceversa i fumetti da stacco per i testi, e poi perché mi sembrava che in quel modo, allo stesso modo, i fumetti rafforzassero i contenuti dei testi e viceversa. E quindi l'impaginazione è stata possibile solo quando sono arrivati tutti i testi, perché a quel punto è stato possibile organizzare il libro seguendo una serie di sezioni narrative. Ora non so quanti di voi lo hanno visto, sfogliato o letto, però tutti lo potranno fare dopo prendendo al banchetto. Esattamente. E vedrete, una volta che l'avete preso al banchetto, che a parte l'introduzione all'inizio, che sono comunque supportate da una serie di illustratori e di autori spaziali, dopodiché partono queste sezioni narrative, per cui c'è un primo blocco di fumetti che affronta proprio i 20 anni che sono trascorsi, quindi dal 2001 al 2020, quindi l'autore che fa proprio, diciamo, una specie di rendiconto di quello che è successo in questi 20 anni. Poi c'è una sezione invece che riguarda le esperienze di chi ha vissuto quelle giornate in prima persona, e quindi le cronache, diciamo, da reduce o comunque da persona coinvolta in quegli eventi. Poi c'è una sezione di chi invece non le ha vissute, e quindi la percezione che ne ha avuto per il tramite di altri mezzi espressivi e mediatici. Poi c'è invece la parte relativa alla Diaz, la parte relativa a Bolzaneto, la parte relativa a Piazza Limonda. E quindi sia i testi che i fumetti vanno tutti in un'unica direzione, che è quella di raccontare quelle giornate con un'ottica, spero, originale e interessante. Vai. Idee due. Ciao, grazie a tutti e a tutti sia per l'invito che a chi è venuto. Una delle grandi caratteristiche di queste presentazioni con supporto legale è che non ci diciamo un cazzo di niente prima, quindi io non so bene quanto deve durare questo intervento, cioè lo faccio a ruota, ce ne sarà un altro, boh. E quindi vi fidate? Fammi così allora come segno quando se sto attaccando la pippa. Infatti poi comunque non c'è stato. No, allora provo a dire proprio due robe che secondo me c'ha senso su questo fumetto qua e su perché ci sto anche io dentro. Evidentemente per me è stata il Giotto di Genova è stato materiale di quasi tutto. Non riesco a parlare, sembro stupido. Allora, è stato l'inizio per me di fare i fumetti fuori dalla mia cameretta, nel senso che la prima cosa che ho fatto fuori da de più lungo di 3 pagine perché non fosse per una fanzine punk è stato il fumetto che si chiamava La nostra storia alla sbarra, che stava nel primo nel primo volume, diciamo, è ristampato anche qua dentro, ed è un fumetto che serviva a me a raccontare un po' quella che era stata non tanto l'esperienza mia genovese, quanto che è un'esperienza molto relativa, nel senso che io avevo 17 anni a Genova, non sono uno di quelli passati per Bolzaneto, non sono passato per la Diaz, non stavo in Piazza Limonda quando è morto Carlo Giuliani, non stavo neanche nel corteo del Carlini, sono uno dei tanti che è arrivato là, poi magari dico un attimo in che modo ci sono arrivato, e che gli schiaffi ha preso soltanto da forestale mentre cercava di andare via, quindi nulla di particolarmente eroico o raccontabile, però comunque su un 17enne quell'esperienza era stata comunque abbastanza intensa emotivamente e forte, e nel momento in cui tra il, se non mi sbaglio, del 2002 e il 2003 sono state arrestate 25 persone con l'accusa di devastazione e saccheggio per tutta Italia, quell'evento là a me mi sembrò particolarmente inaccettabile, nel senso che ci fosse questa roba che in qualche modo continuava, come di andare a cercare le persone per seppellirle in carcere dopo quello che già avevamo subito, mi sembrava una cosa particolarmente inaccettabile. Mi sembra che più o meno è stata la stessa cosa che ha mosso poi la costituzione del supporto legale, quindi ci siamo trovati abbastanza facilmente su questa cosa qua. E negli anni successivi ho continuato a parlarne, cioè non credo che ci sia un solo libro mio in cui non viene citata Genova, proprio perché è stata così importante nella mia biografia che in qualche modo ritorna sempre nel racconto di quello che poi c'ho da dire, anche del mio sguardo sul presente, eccetera. Questa cosa però ha fatto sì che ne ho parlato in quasi tutte le forme possibili e immaginabili, e da quella più retorica a quella più drammatica a quella più buffa, eccetera. E quindi in realtà siamo arrivati, questa roba ha determinato comunque una serie di discussioni, perché Genova è comunque un tema molto divisivo per un pubblico di persone normali, e non so come dirlo diversamente, de persone fuori da questa tribù. E per cui, nonostante il pubblico delle persone che si leggono le cose mie negli anni si sia abbastanza scremato, quindi si è scremato da solo, quindi mentre prima qualsiasi presa di posizione politica provocava 800.000 persone che mi scrivevano «Ah, non te leggerò mai più, ah, sono indignato», eccetera, ormai c'è quasi su tutti i temi abbastanza assonanza tra me e le persone che mi leggono. Quando non c'è, se mi legge un nazista, ormai ha imparato che quella è una sua contraddizione, quindi non me la rinfaccia più, se la tiene in silenzio, come quelli che si ascoltano la musica dei nazisti da soli perché gli piace la musica, non è che poi gli scrivono per dire non mi piacciono i vostri testi, sanno che, parlo di me per esempio, sanno che è una contraddizione che uno si tiene e basta. E quindi quello, e mentre Genova non è così, nel senso, comunque il 20 luglio a Genova, cioè quando si parla di Genova ogni 20 luglio sui social, è qualcosa che continua a essere sempre continuamente un dover cancellare commenti che ti dicono che Carlo Giuliani è un assassino, che difendete un assassino, che allora la Diaz fa bene, my back block, insomma, anzi, eccetera, quelli là bisognava buttare la chiave, gli infiltrati, eccetera. Mo, al netto del fatto che, questo lo dico a tutte le presentazioni, ma perché penso che è proprio una cosa macroscopica, che se uno che manco ci stava, perché magari è piccolo, cioè aveva 4 anni, parla di Carlo Giuliani in termini di un assassino, ti fa capire quanto è stata raccontata male Genova, se l'unico morto di quelle giornate viene chiamato assassino, anche proprio dal punto di vista del dizionario c'è un problema. E però in questo ventennale specifico, poi ma zitto, ci sono quasi arrivato, giuro, in questo ventennale specifico sono stato chiamato da un miliardo di persone che mi hanno chiesto: ah, ma tu hai parlato tanto di Genova, non è che ti va di fare un'intervista per questa cosa, di fare non lo so, per questo podcast, per quest'altra cosa, eccetera. E tutti dicevano: la cosa che è importante, guarda, tranquillo, non vogliamo parlare delle questioni dell'ordine pubblico, del blocco nero, degli scontri, eccetera, anzi, vogliamo parlare dei temi, perché alla fine i contenuti sono importanti, i temi sono importanti, e alla fine chi aveva fatto quella roba ci aveva ragione, perché poi sono tutte le cose che stanno adesso in agenda, e è tutto vero, nel senso che è vero che tutte quelle cose stanno in agenda, stanno così tanto in agenda che praticamente quasi tutto lo schieramento, appunto a parte veramente pochi, sono comunque ormai abbastanza convinti del fatto che le questioni della globalizzazione, del riscaldamento globale, eccetera, sono dei temi che in qualche modo vanno affrontati. E la questione è che però io avevo 17 anni, io a Genova, quando ci sono andato, non è che facevo parte, non c'avevo nessun percorso politico alle spalle, se non di una bussola dei valori molto sommaria di quello che era giusto o sbagliato, e non è che portavo la mia esperienza politica che in qualche modo aveva bisogno di andare a precipitare in una vetrina dove parlare dei temi che agitavo sui miei territori. Io, come un sacco di persone giovani e meno giovani, comunque ci sono andato, e questa roba non l'avevo mai detta in tutti quegli anni, perché comunque non mi sentivo di poterla di, mo adesso penso che ho le spalle abbastanza larghe per poterla di abbastanza tranquillamente. Comunque io sono una di quelle persone che ci è andata perché a Genova ci stavano gli scontri, nel senso che non credo che ci sia una grossa ipocrisia nel negare il fatto che una delle cose che ha portato le persone a Genova era questa dimensione di conflitto che comunque veniva praticato, che era da Seattle in poi in qualche modo attraversava il mondo, e quella era la tappa italiana di quella roba lì. E io gli dico molto tranquillamente, gli scontri non li ho manco fatti, perché ci sono andato pensando di andare a fare la guerra dei bottoni, mi sono trovato davanti un esercito di annientamento, evidentemente, appunto, se pensate che comunque sono riuscito a prendere pizze da forestale, vuol dire che non ero evidentemente abbastanza preparato per fare gli scontri a Genova. Però quello lì è un tema che secondo me era importante parlarne in questo ventennale, proprio perché mi sembra che sia paradossalmente il grande rimosso di questa cosa qui, anche di quando abbiamo cercato di parlarne in positivo, ma ha fatto sì che per tanti anni noi abbiamo parlato di quanto... anche nelle narrazioni che sono state fatte, anche nei film, eccetera, di quanto erano cattive le guardie, che è vero, e di quanto erano poracci quelli che hanno piato gli schiaffi o le torture o quant'altro a Bolzaneto, alla scuola Diaz. E questa roba ha creato, da una parte, il fatto che effettivamente quasi più nessuno ti dice che le guardie hanno fatto bene alla Diaz a Bolzaneto, nel senso che quasi tutte quelle persone là, cioè c'è più o meno il consenso totale sul fatto che quelle cose sono state vergognose e che chi le ha subite in qualche modo ha subito delle atrocità. Ma questo concentrarsi su questo ha in qualche modo lasciato invece il resto del campo a chi stava lì in una modalità più conflittuale, praticato o meno, in qualche modo, mentre quelli erano i buoni perché erano le vittime, quegli altri erano i cattivi, e quindi i cattivi erano quelli che avevano provocato quella situazione, addirittura erano i responsabili di quelle vittime, perché se c'è stata la violenza di Bolzaneto, la violenza della Diaz, è perché qualcuno aveva esacerbato gli animi in piazza in quella maniera là. Questo tipo di pensiero qua in realtà è quello che poi ha portato appunto a delle sentenze terrificanti e cose che in una legislazione normale sarebbero state di danneggiamento, quindi quello che può succedere se io adesso esco e rompo un vetro, e lì invece sono state usate le categorie della devastazione e del saccheggio che è significato combinare anni e anni di carcere, appunto dai 7 ai 15 anni di galera a chi è stato in qualche modo è incappato nelle maglie della giustizia. E secondo me una delle maniere per cercare di rompere questa cosa qui, che è ancora una di quelle con cui io mi scontro quotidianamente anche con i lettori miei e con le persone con cui in qualche modo mi relaziono quando faccio questo mestiere qua, era provare a dire che effettivamente c'era anche quella dimensione lì che ci ha portato Genova, e che non è che è una dimensione che dobbiamo tenere segreto, di cui ci dobbiamo vergognare, ma era qualcosa che è stato anche poi un motore di questo paese, insomma, il conflitto, e che appunto mi dispiaceva che in questo ventennale sparisse completamente. Ho finito, ma zitto, ciao. Allora, io premetto che oggi sono venuto qui per ascoltare e non per parlare. Quindi, però lo dico senza retorica, cioè nel senso, quello che io posso dire al riguardo è ben poco, per quanto uno si possa informare, studiare, non è che viene qui e può dire qualcosa che già non sapete tutti. Quindi inizio con il dire che durante i fatti di Genova, io avevo 10 anni, quindi non c'ero. E quindi per me è stato fondamentale, anche se ricordo quel giorno, e poi ci sono state tante cose, tanti coinvolgimenti emotivi, perché mia sorella andava alle manifestazioni, quindi ero molto presente e ricordo quel giorno. Però proprio perché, come ha detto Oscar, una delle cose interessanti di questo progetto, di questa riedizione, è che ci sono più generazioni. Ora dico generazioni per dire che rispetto a... è un po' forte come termine. Siamo dei vecchi. No, però è per dire che c'è chi c'era a 17 anni, c'è chi c'era a 30 e eccetera. E c'è chi non c'era, c'è chi non era nato. Quindi per me è stato fondamentale per capire... per conoscere la testimonianza, quindi chi ha fatto lo sforzo di fare dei documentari, di scrivere degli articoli, dei libri, è stato fondamentale. E quindi a questa lista di documenti, di testimonianze, aggiungo questo libro qua, che ha un ruolo, secondo me, importantissimo nel portare avanti, come è stato detto all'inizio, la memoria. Perché una cosa che una volta disse Michele, che è fondamentale, è che c'è gente che ha oggi 20 anni, quindi questo ventennale non era nata, oppure ha la stessa età di questa ricorrenza, che a meno che non siano persone molto informate, non sanno niente, hanno un'idea molto vaga, hanno un'idea raffazzonata, oppure insomma le cosiddette persone normali, quindi quelli che non sono estremamente informati, quindi che non hanno... uno slancio personale che li porta a informarsi nel dettaglio su quello che è successo, torna fondamentale un'operazione del genere. Quindi uno dei ruoli, ci sono tante cose importanti che fa questo libro e non servo io per dirle, però una delle cose importanti per me è portare avanti questa testimonianza e portare avanti un tipo di informazione che scenda anche nel dettaglio su alcune questioni, tipo appunto: ma i cattivi si meritavano le botte? No, ma tu hai difeso quello che era un assassino? Non è vero. Quindi portare avanti questo tipo di testimonianza è fondamentale anche per me in prima persona, per chi è più giovane di me, che non deve pensare cose approssimative. Quindi io mi taccio a questo punto e... Allora, non ti faccio tacere, nel senso che invece, secondo me, sempre per spiegare un po' come è stato fatto questo libro, è interessante che io vi racconti anche come è nato il coinvolgimento di Martoz, perché è anche un po' emblematico di tutta la lavorazione del libro. A parte pochi casi eletti, noi di Coconino siamo molto abituati a lavorare con gli autori, quindi a fare anche un... lavoro di editing, quello che si dice, no? Quindi ricevere una storia e poi ragionarci con gli autori. La fortuna di questo libro è stata che è stato realizzato in un tempo abbastanza dilatato, e quindi questo ci ha consentito, soprattutto con gli autori come lui, che hanno consegnato per tempo, di poter fare una serie di ragionamenti. Allora, la cosa divertente, secondo me anche emblematica, del coinvolgimento di Martoz è che lui, appunto, come vi ho detto prima, è stato uno dei primi a consegnare. E mi ha consegnato questa storia muta, che secondo me è uno dei contributi più belli del libro, che però da subito, proprio perché era una delle prime cose che ci è arrivato, mi ha acceso un po' una spia lampeggiante, un rischio di pericolo. Perché appunto, quando poi al banchetto comprerete il libro, o chi l'ha già visto, vedrete che Alessandro ha raccontato una cosa molto importante, e cioè quella di tante persone che sono andate in quei giorni a Genova e che, nonostante un'impostazione super pacifista, sapete che quel movimento era composto da tantissime anime che andavano dal volontariato cattolico a appunto, a, come dice Michele, le persone che erano andate là solo per fare gli scontri. Martoz, che è autore intelligente e che prima di fare la storia comunque si è documentato, ha deciso di raccontare un particolare evento, e cioè il fatto che la cronaca di quei giorni è stata da subito travisata e spostata su un'ottica legata al fatto che c'erano alcune persone che sono andate là e hanno fatto, diciamo, degli interventi di devastazione o come li vogliamo chiamare, e che quindi quella roba là ha comportato il fatto che ci sono andati di mezzo delle persone che invece erano andate a viversi quelle giornate con il massimo del pacifismo possibile. E quindi faceva questo ragionamento dicendo: non è che è sbagliato, cioè non è che è giusto il fatto che chi fosse andato là per fare gli scontri si meritava Bolzaneto o si meritava una pallottola. Ovviamente no, non era questo il punto. Però gli faceva specie che fossero rimaste coinvolte e picchiate e torturate e diciamo in qualche caso anche avessero avuto la vita rovinata persone che invece erano assolutamente pacifiche. E quindi ha fatto questa storia molto bella, muta, dove c'era un dettaglio, e che era diciamo la tavola finale rappresentava una ragazza che aveva un segno pacifista sulla fronte. Siccome è stato appunto uno dei primi interventi che io ho ricevuto, ho avviato con lui subito un dialogo abbastanza serrato sul fatto che, guarda, storia bellissima, forte, sono contentissimo, ragiona solo tu come autore se effettivamente quel simbolo della pace può essere interpretato in una maniera per la quale non so come dirla, devo essere abbastanza diplomatico, cioè chi è, tutti si meritavano, cioè nessuno si meritava gli schiaffi, però sicuramente non se li meritavano chi era andato là con intenti pacifici. Perché? Perché come l'oggetto del libro è proprio il fatto che invece a prescindere dalle intenzioni e dalle dinamiche di lotta che ognuno di noi ha in quei giorni manifestato, appunto delle pratiche repressive fossero comunque inaccettabili, sia dal punto di vista poliziesco e sia dal punto di vista soprattutto legislativo, perché appunto già nella bandella del libro viene ben ribadito come molte delle persone che sono state condannate abbiano subito delle condanne maggiori a chi si è macchiato di alcune forme di omicidio. Quindi paradossalmente rompere una vetrina o fare qualcosa del genere voleva dire prendersi 7, 8, 10 fino a 15 anni di carcere, con cose assurde tipo devastazione e saccheggio, ma anche la compartecipazione psichica, cioè il fatto che anche se tu non l'avevi fatto ma stavi comunque là, eri comunque responsabile, che sono una cosa, non lo so, credo veramente la fine dello Stato di diritto comunque lo si voglia intendere. E quindi ho avviato con lui questo dialogo, diciamo così. Lui giustamente è rimasto nella sua posizione e credo che si abbia fatto anche bene, nel senso che per fortuna il libro è riuscito a dare uno sguardo su tutte le posizioni che hanno attraversato quei giorni, e quindi era assolutamente importante che anche quella parte là fosse rappresentata. E questo lo dico anche perché in prima persona, avendo vissuto quei giorni, io appunto stavo sono andato là con vari amici, ma anche con la mia compagna, e nella manifestazione venerdì io sono andato con i cattivi mentre la mia compagna è andata con i buoni. Quindi è evidente che se, diciamo, io sono riuscito a evitare gli schiaffi e l'avesse preso invece la mia compagna, diciamo, sarebbe stato un problema che mi sarei vissuto sulla mia pelle forse molto male. E quindi per chiuderla, la storia di Alessandro a me è stata molto utile, perché sono riuscito a posizionarla esattamente dopo quella di Michele. Quindi c'è Michele che dice: là io avevo 17 anni, sono andato là per gli scontri come tante persone, e posso dire anche cioè anche io insomma stavo là, che non è che non mi aspettavo quella roba là, ma insomma ero contento che il conflitto fosse diciamo risoluto. Però c'era anche quell'altra parte là da considerare, e quindi in realtà la sua storia è stata la perfetta cerniera fra la visione di Michele, poi c'era la sua, e poi invece c'era quella di Michael e Mirko, che diciamo anche su questa spendo due parole e poi mi taccio, che invece è un non so se lo conoscete, i Scarabocchi di Michael e Mirko, fa queste vignette tutte su fondo rosso, insomma è uno dei geni veramente del fumetto italiano e della satira italiana, e lui racconta proprio la prospettiva di un reduce che non vuole raccontare al figlio perché è stato a Genova, perché la sconfitta è stata così totale che addirittura lo vuole rimuovere e vuole che il figlio non lo sappia. E quindi appunto una storia che all'inizio sembrava porre determinate problematiche, in realtà invece è stato solo un arricchimento per quella che è la visione narrativa del libro. Io chiuderei abbastanza qua. Adesso abbiamo fatto quasi 3 ore di incontro, vi ringrazio per la pazienza di tutti quanti. Io più o meno poi lascio la parola magari a Roberto per chiudere definitivamente come gran ciambellano della giornata. Ricordo solamente, noi adesso abbiamo sbaraccato il banchetto non perché non si possono acquistare le cose, ma perché ci trasferiamo fuori nel giardino, così c'è più spazio per tutti e ci sono tutti i materiali che abbiamo portato, e sia Michele che Martoz si fermeranno per poter poi firmare delle copie e le serigrafie che abbiamo stampato. Tutto il ricavato dei banchetti e della giornata, come ha ricordato Roberto, va a supporto legale e quindi a sostenere i compagni e le compagne in carcere e tutto il lavoro che facciamo. Lascerei la parola a Roberto per chiudere e vi ringrazio ancora. Sì, 2 parole soltanto. È bello stare insieme più di 3 ore a ragionare per davvero, ad ascoltare delle narrazioni che derivano da un'esperienza diretta e da una riflessione che ha attraversato questi 20 anni. E oltretutto nelle ultime battute viene posta una questione che non c'era nella parte precedente, e cioè chi ha la responsabilità politica delle torture, delle aggressioni alla manifestazione, di tutto il sangue che è stato versato nelle strade di Genova, oltre alla polizia, che però sappiamo è lì per fare quella roba lì, non è che ne sa poi fare altre 10. Ma ci sono delle responsabilità politiche, perché se si prendono degli accordi con la questura, e Dio buono, è la prima volta che capita che questi accordi non vengano rispettati. Se si porta una gran massa di manifestanti pacifici e non predisponi un minimo di tutela perché vadano a casa sulle proprie gambe invece che in ambulanza. Ecco, questo tema, che è un tema importante, perché assolutamente, come ha detto Mattia e come è ricorso in altri interventi, è assurdo e infame attribuire la responsabilità della risposta dello Stato a chi cerca di lottare. Ma questo non significa che dentro le forze che hanno concorso all'organizzazione della manifestazione non ci siano delle responsabilità politiche molto gravi e precise. Questo è un tema che meriterebbe altre ore di discussione. È uno di quei temi che si può affrontare nella notte intorno a un tavolo mentre si beve e si ragiona, ecco. Però che una discussione così, a me è piaciuta molto, così intensa, si chiuda ponendo delle nuove questioni, è anche essa cosa bella. Quindi io non chiudo con l'idea di sintetizzare alcunché, non c'è bisogno, il confronto c'è stato e continuerà. Voglio solo leggere 2 righe perché le condivido, è il mio punto di vista e porta su una serie di questioni soprattutto volte al futuro. Queste righe sono queste. Solo chi rimane indifferente e chiuso alla libertà e alla gioia che quelle giornate di luglio contenevano, ha ad aspettarlo un futuro triste e già scritto. Per gli altri, invece, è possibile ancora fare tante storie e incamminarsi lungo non segnate vie. Io la vedo così. Adesso l'acquisto, come diceva Blissero, del libro fuori per chi vuole, il firmacopie sia del libro che delle serigrafie anche esso fuori. Poi qualcosa, siamo qua. Esatto, chi vuole tornare, c'è da bere, c'è da mettere qualcosa sotto i denti e poi insomma si sta qui anche per salutarsi, visto che grazie Conchetta per l'ospitalità, la libreria Calusca, una vera istituzione di Milano e non solo.